fate parlare. E che vuoi dire sul Colorado? Sono aumentati. Ma parli solo te, benissimo. Oh, la trasmissione ma è tua. Chi l'ha detto? Mario, ma scusami un attimo, perché? No, ragazzi, perché mi dici? Adesso parliamo seriamente. Siete due pagliacci che non fate parlare. Ma che c'entra? Io non faccio la spalla dei pagliacci. Ma che cosa c'entra? Ma la smetti con queste cose? Parlando della droga. Siete due delinquenti. Ma che delinquenti? Siamo a favore della legalizzazione noi. Siamo a favore della. Ma che droga? Ma quali spacciatori? Ma che sei impazzito? Fare il culo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Sono felice, ho messo a mangiare la coda alla mattinara, alla faccia del Berlusconi e i suoi successori. Silenzio la vecchia! Se uno vi ascolta è perché vuole credibilità, vi crede, perché vi vuole bene, perché non può sentire altre parti dove tutto è leccato, invece qui culo e culo, culo e culo, capito, capito, capito, culo e culo, culo. Cruciani, mentre che tu stai parlando delle donne che vanno in giro con le minigonne che hanno arrestato qua e là, eccetera, eccetera, no? Ma coglione, voglio vedere te un giorno sopra un calendario dentro qualche officina meccanica, ah, con quel culo nudo, ma fatti vedere sopra un calendario, pezzo di merda, testa di cazzo che non sei l'altro. Ha un faccia di un papuglino, vattene a fanculo, coglione. Hai capito? Un giorno voglio vederti su un calendario con il culo nudo, ginocchiato, scimmiato. Vai figa, fanculo, va. Babuino, babuino. Hai capito? Babuino, babuino. Donato, che c'è di nuovo? Hai chiamato dicendo sono incazzato nero, con che cosa? Le solite cose, l'islamizzazione? C'è qualcosa di nuovo? Boeri, gli immigrati, che ne so, Boeri, qualche cosa di nuovo, che ne so? Boeri da manettare, Boeri da manettare, quando dicono che viviamo con le pensioni degli immigrati, è da manettare! Ultima settimana di Zanzara, cosa abbiamo imparato in questa stagione? Beh, io direi l'importanza dello squirting, il vero utilizzo di uno spazzolino da denti elettrico e che alle cinesi non piace l'anal. Un saluto da un rappresentante della maggioranza silenziosa. No, amico mio, da quello che sembra, da quello che sembra, non mi pari. Però esatto. Come infiltrato. Dice David, negli anni 70 avremmo detto, con le parole di Mario Capanna, un agente provocatore, cioè uno di questi ragazzotti appartenenti alle cosiddette forze dell'ordine che si insinuavano all'interno del movimento studentesco per crearne all'interno il dissenso. Si chiama agente provocatore, lo teorizzò magnificamente, ne parleremo lungamente nel corso della puntata, il signor Cossiga, detto anche il picconatore. Bene, noi quando avevamo l'occasione di individuare questi malefici agenti provocatori, esatto, venivano individuati, venivano ammanettati da noi compagni e compagni del movimento, venivano qualche volta, non dico torturati, ma sicuramente messi nella condizione di non nuocere più all'interno, quindi bastonati sicuramente. Scusi, signor Capanna, siccome ho l'occasione, come al solito, di altro che infiltrati e di averla qui, perché lei si è infiltrato, come non so attraverso quali tecniche, in questa trasmissione, le vorrei chiedere. Io ho parlato con i vertici della cosiddetta, ormai mi fa sorridere, Confindustria. Fermi tutti, mi pare hanno approvato, le do subito la notizia, Capanna, hanno approvato l'abolizione dei vitalizi alla Camera. E allora scatta la rivolta, compagni e compagni, mi sto già recando dalla mia tenuta in Umbria, sto già arrivando su Roma, avviso alle compagne e ai compagni, assediamo il palazzo, ci vuole il cosiddetto dissenso, in questo caso anche un po' armato, ma armato semplicemente di mazze e bastoni. Ma scusi, ma a favore dei parlamentari? Garriscano gli striscioni, è stato oggi il Parlamento ha fatto un colpo di Stato, perché togliendo il diritto alla vita a chi come me ha combattuto per tantissimi anni dalla parte delle compagne, dei compagni, dei lavoratori e delle lavoratrici. Quindi ma che c'entra c'entra i lavoratori e lavoratrici con i deputati e i senatori? Ma, scusi, io credo è un diritto inalienabile quello di avere 6.000, dico 4.500, sono pochi spicci, di euro al mese di pensione, visto che ho combattuto per tanti anni all'interno di quelle aule, di quei palazzi che conosco magnificamente. E ho diritto ad avere, mi stanno togliendo un diritto. Ora, compagni e compagni, amici di La Scatasuna, noto centro sociale di Torino, vi invito per un attimo a deviare dall'attenzione della TAV e di portarvi immediatamente davanti al palazzo, al Parlamento. Assediamolo, non facciamo uscire questi deputati, cosiddetti deputati, dal Parlamento. Assediamoli. Sì, sarà per motivi elettorali, non lo so, sarà per motivi che non voglio nemmeno sapere. Bisogna che questa norma sia approvata dal Senato, è molto complicato, magari non accadrà tutto come dice Grillo, anzi sentiamolo subito, Grillo che dice tanto al Senato sono tutti vecchi e non la approveranno mai. Vedremo, vedremo. Intanto oggi le persone normali, le persone sane, le persone per bene hanno battuto un colpo. Hanno battuto un colpo il Parlamento, forse in un ultimo sussulto di dignità. Aspettiamo, aspettiamo. Senato magari. Ma Senato sono anziani, sono. Quindi è chiaro che cercheranno di affossare tutto. Se non vi fa godere anche solo per qualche settimana che D'Alema e Fini, vi dico solo una cosa, che D'Alema e Fini perdono 2.200 euro al mese. Beh, cioè, per la prima volta, per la prima volta, deputati e senatori perdono dei quattrini, amici miei. Piace così. Ma non vi fa godere D'Alema e Fini perdono 2.200 euro al mese. D'Alema e Fini sono due persone che da punti di vista diversi hanno fatto politica, non sono dei criminali. Tu sei un criminale, sono non degli D'Alema esempi, e Fini. Sono degli esempi, non voglio personalizzare. D'Alema e Fini perdono 2.200 euro al mese. Marini 2.500, Bertinotti 1.900. Ma tutto questo non vi fa godere, almeno solo per qualche secondo. Magari poi affosseranno tutto al Senato. Non vi fa, deve farvi godere. Le persone ormai oggi godono. Radio? Ma cos'è questo programma? Aspetta, ma cos'è prodotto dalla Casaleggio Associati? Non ho capito. Ma che c'entra questo qua? Io ti segnalo che anche il PD, ma il che PD, roba è? Il PD ma ha cos'è? Approvato questa cosa qua. Ma chi sei, Grillo? Il Grillo della radio. Era un progetto di Richetti del Partito Democratico. Ma non c'è, infatti, vedi, persona per bene, persona per bene. Ma sì, per ma bene. Un progetto populista che insegue semplicemente populista? I bassi umori di questi, allora, Beltroni, di questi ultimi mesi. Ragazzi, godete con questi dati. Beltroni perde 2.200 euro al mese. Publio Fiori, ex DC, poi Alleanza Nazionale, re dei vitalizi con 10.131 euro al mese, perde 4.000 euro. Ma tutto guarda, questo dovrebbe farvi godere. No, ma dovrebbe farvi godere fortissimo dovrebbe farvi godere. Per, niente, per la prima volta Vendola, signor Vendola, passa, leggo qui da 4 secondi i calcoli del tuo amico Boeri. Michi Vendola passa da 4.985, passerebbe, purtroppo c'è ancora il Senato come dice Grillo, passerebbe da 4.985 a 2.991. Tutto ciò quanto vi fa godere? Ma zero di purtroppo zero. Anche non la signora Cicciolina, purtroppo anche Cicciolina passerebbe da 2.231 euro mensili a 1.300 euro, perdendo 900 euro. Questo non è buono, Questo non è buono. L'abbonino 6.715, amico mio. Si dovrebbe accontentare di 3.800 euro. Ma si torna alla normalità. Ma quale normalità? Ma li hanno democratica. Versati quei contributi? Ma che dici? Ma pazienza, perché alimenti questo pazienza, clima? Ma cosa pazienza, fai? Se finì, se finì, pazienza, se finì. È arrivato lui. Il Bengodi è finito. Ve lo siete deciso da solo il ma vitalizio? Ve lo siete dato da solo il vitalizio? Adesso la musica cambia. Viva Richetti, viva quelli che hanno approvato il provvedimento oggi. Viva, viva, viva. Avete battuto un colpo. Continuate così anche al Senato. Avanti tutta, avanti tu, io l'abolirei totalmente. Comunque non si può per il passato. E adesso lo sai che cosa dicono? Beh, la Corte Costituzionale è incostituzionale, cioè puntano come al solito sulle cose della Corte Costituzionale. Lo ha scritto benissimo il presidente emerito, il professor Valerio Onida, ha spiegato oggi perché questa legge potrebbe, il professor Onida, potrebbe cosa. Essere impugnata. Io comunque, mi ricordo di comunicazione cosa. Di servizio, questa trasmissione oggi è offerta dalla Casaleggio Associati, la parola a Cruciani. Ma non c'è via, prego. Il Partito Democratico prego, è un progetto di legge del partito. Avanti, avanti. Ti voglio segnalare. Ma tu ti inserisci finisci in un racconto, no, il racconto che sposa per il racconto, racconto, uno storytelling, il tuo racconto della politica patetica, si inserisce perfettamente con questa campagna, ragazzi, di odio contro i godete, politici. Godete solo a queste notizie che vi ho dato. Ma perdono per la prima volta dei quattrini. Viva Richetti, ma PD, non sono dei viva criminali, i grillini, no, quelli che hanno votato in Parlamento. Evviva, evviva! Impazzito. Avete battuto un colpo di dignità, finalmente. Impazzito. Un sussulto di dignità del Parlamento. Impazzito. Allora, Adornato, per cui ho lavorato anch'io, cioè Adornato, che adesso, dopo essere stato nella sinistra, poi con Forza Italia, berlusconiano, poi è incredibilmente rimasto in Parlamento. Signor Adornato, per carità. Beh, è stato eletto. Sì, anche con lui non vuoi? Anche Adornato non vuoi? No. Che ti ha fatto Adornato? No, nulla. Però, no, amico mio, è passato dalla sinistra. Ma non a è. Berlusconi. La devi smettere! Non è un posto di criminali! Basta. La devi smettere con questa più. Roba! Non ne posso più. Adornato, non è vero che siamo tutti uguali, senza vitalizio. Certo, ha ragione. Non è vero che siamo. Ma non ne posso più. Perché Adornato deve prendere più di quello che prende un normale impiegato? Perché ma deve essere un privilegiato rispetto a. Perché non è un impiegato! Basta! È un deputato! Non rompere i coglioni! Non è un impiegato! Tu sei un impiegato! Tu timbri il cartellino! Vergogna per queste frasi! È un dipendente! È un nostro dipendente! Sì. Ma come parli? Come Rocco Casalino! Di Maio? Questa storia che siamo uguali tutti non è vera! Perché le funzioni cambiano, poi sono temporanee. Uno viene eletto. E sapete perché c'era il vitalizio? Per garantire la libertà del deputato. Ma non solo dall'indipendenza, l'autonomia, i poteri forti. Dal lavoro! Dal ricatto di non avere un lavoro, di non trovare più lavoro dopo 10 anni. Ma questa è una follia vera e propria. Sono cambiati i tempi, è una scusa. Non è più valida questa cosa. Vi siete autoattribuiti un vitalizio, una pensione, chiamatela come volete, esagerata, che va contro qualsiasi logica, che va contro la dignità delle persone. Dunque, cos'è? Rivendichiamo un ruolo diverso. Ancora Adornato, senti, i parlamentari non possono essere paragonati a semplici cittadini. Certo. Pensa che vergogna questa frase. Certo. Un cittadino normale che si fa un uso di culo così e che a parità di contributo prende una pensione infinitamente più bassa rispetto a un deputato. Cosa dovrebbe dire? Vuol dire invece è un privilegio vergognoso. E adesso pagano anche quegli altri. Pagano. Io godo se uno perde 2000 euro dopo che ne ha incassati per una vita tanti, essendo un privilegiato. Io godo. Questi parlamentari non possono in nessun modo essere uguali agli altri cittadini, perché rivestono una funzione che non può essere paragonata a nessun'altra funzione in giro per l'Italia. Onde che chiudete, cornuti! Ma che fate, ramagno la parola? E quei poveri cristi che contavano di andare in pensione a una certa età e con la riforma Fornero hanno visto sballare tutti i loro programmi? Quello è popolo bue, quindi non succede niente. Se invece sono i privilegiati, allora è un problema, vero Parenzo? Buffone. Come rispondi Parenzo, a questo? Sei il servo della casta. Come rispondi a questi? A questa gentaglia non c'è da rispondere. C'è soltanto da dire che mi auguro almeno che questi soldi risparmiati, cosiddetti risparmiati. Ancora non è detta, t'ho detto, passa al mi Senato. Mi auguro che, ho passa detto, bene, vint, ok, avete reso, avete tolto un po' di soldi ai deputati cattivi, sì, benissimo. Bellissimo. Almeno questi soldi vadano ai migranti, cioè almeno come si decida che i soldi risparmiati vadano sì. nella costruzione, alle che organizzazioni che si occupano di salvare pazzo. I migranti in mare e che si occupano di costruire delle strutture. Per pazzo. Cui queste persone possono piano piano integrarsi e possono vivere tranquillamente tra di noi. Ma tu sei veramente malato di mente. Questo almeno andrebbe fatto. Ma cosa fatto. C'entra? Almeno. Cosa c'entrano i migranti? Ci abbiamo risparmiato tot migliaia di euro, non so neanche quanto è il conto. Non di lo so, si non mi interessa. Qua. Non pochi mi interessa. Spicci. Bene, questi spicci verranno messi in un capitolo di spesa dedicato alla emergenza migranti. Ma perché? Almeno questo perché? Si dica. Perché? Almeno questo si faccia. Allora, via. No, ma ti faccio ascoltare un altro. Un tizio che si chiama Pizzolante, che come sai appartiene al partito di Alfano. Ma quelli di Alfano sono quelli più accaniti, chissà perché. Vabbè, il partito di Alfano sono quelli più accaniti contro l'abolizione del vitalizio. Signor Pizzolante, senti, no, perché è curiosa la cosa. Senti. Io ho un figlio che fa l'imprenditore. Le banche hanno scoperto che quel signore che si chiama Pizzolante e figlio dell'onorevole Pizzolante gli hanno bloccati i figli, perché è una persona politicamente esposta, gli hanno bloccato i figli. Ma ragazzi, ma forse questo Pizzolante non si rende conto della situazione degli italiani con le banche, cioè della difficoltà di ottenere credito. Adesso lui ci vorrebbe far credere, a parte che dovrebbe portare le prove di questa roba qua, ci vorrebbe far credere che il figlio imprenditore, una volta che le banche hanno scoperto che è figlio di un politico, gli hanno bloccato i fidi. Secondo te può essere vera una cosa di questo tipo? Può essere vera che il figlio imprenditore è stato bloccato per questo? Secondo te perché è figlio di un politico? Ma non diciamo stronzate, dai, porti le prove di questa roba qua, Pizzolante. Se l'ha detto, però si può, è facilmente prove. Verificabile, ma po- no? Ma scusa, nei confronti degli italiani che hanno, come sai, un sacco di problemi con le banche, con i prestiti, eccetera, c'è tutto quello che sappiamo e che il signor Barisoni ci dice ogni giorno a Focus Economia. Nel programma Barisoni, precedente. Piace molto, appunto, Barisoni. Lo dico, esatto. Sei bravo, ascolto voi tutte le sere. No, Barisoni. Non lo ascolti mai, comunque sempre lo lasciamo perdere. Lo ascolto, anche la domenica. Non va la domenica, ma anche la domenica lo ascolto. No, appunto, dico, sappiamo quali sono le difficoltà. Io ascolto Barisoni anche di domenica. Fai tu, vedi tu, di domenica io ascolto Barisoni. Ma Barisoni, tu ci credi a Pizzolante? Ci credi a Pizzolante? Ci ma credi? Se la de- sì, dai, non vedo il motivo. Un altro, per sempre cui... del partito di Alfano, che si chiama Tancredi. Tancredi, sempre AP, Tancredi, che non è l'ex portiere della Roma, Tancredi. Dice: il deputato è diverso dagli altri cittadini. Ragazzi, io non ne posso più. Io dico, questi qua che non rappresentano nessuno, eletti da nessuno, in particolare questi qua di Alfano, eletti da nessuno, rappresentano nessuno, sono in maggioranza con Renzi, sono stati in maggioranza con Renzi, ma lasciamo perdere le cose politiche, dicono che loro sono diversi dai cittadini. Ma dimmi te se poi uno non si deve incazzare, dimmi te se poi la gente normale non prende d'assalto questa radio e mette a rogo Parenzo che difende questi qua. Dimmi te. Ma non c'è da difendere metaforico questi. Naturalmente, cioè, ecco, non è metaforico, ma non c'è da difendere, dai, c'è... su, ma la gente a un certo punto non deve mai prendere i forconi, la violenza mai, ma uno che si chiama Tancredi, che ti dice eletto da nessuno, miracolato parlamentare, il quale dice noi siamo diversi dai cittadini normali e vogliamo mantenere il privilegio del vitalizio, cosa rispondi a uno normale che poi ti dice incazzato perché ha perso il lavoro? Come gli ma rispondi? Ma perché è sbagliato, come la gli rispondi? Spiegami, è sbagliato, come la gli questione rispondi? Bisogna partire dal fatto che chi fa politica non è un criminale, ma non anche è un qui criminale. Davanti uno che fa il tecnico alla radio qui è incazzato, che prende anche altri che prendono 1000, 1200, 1300. Cosa c'entra? Quando sentono queste cose sono furibondi. Adesso spacco il coso, spacco il telecomando. Sono furibondi, non lo dico io. Io sono furibondo per motivi di principio, ma io sono privilegiato rispetto a loro. Ma cosa vuol dire? Ma sono incazzati quando questi qua ti dicono non siamo come i cittadini normali, mentre non fate un cazzo. È un'altra cosa, certo. Io non credo che il deputato sia uguale a un altro cittadino. Certo. E a un altro impiegato pubblico. È uguale nel momento in cui c'è la possibilità di esercitare l'elettorato passivo per tutti e due, poi chi diventa deputato è diverso. Ragazzi, è pazzesco. Questo è nelle cose, è però. Pazzesco. Perché per è garantirgli pazzesco. Il massimo nello sviluppo della propria funzione, no? Cioè, è c'è pazzesco, una ragione. Raisi, il tuo amico Raisi, ex AN, ex Finiano. Sì, bravissimo Raisi, una brava persona. Ha detto persona, ci trattano detto come cose... ladri, ci trattano sì, come ha ladri. Sì, ha perfettamente ragione, è vero. Senti. Sai che io non l'ho mai pensata come Raisi, ma è una persona molto per bene, che ha fatto della militanza niente. Politica. Vabbè, pazienza. Adesso fa l'imprenditore e guadagna regole, molto di più. Ma e allora che vuole? Le ma giustamente cambiano, rivendica regole... il fatto che siccome non ha rubato, ma ha fatto politica cambiano per bene, regole, cambiano... senza mai essere condannato per nulla e ha le mani pulite, pur non pensandola come me, dico viva Raisi. 1, 10, 100.000 Raisi, avercene di deputati come Raisi, ed è giusto che abbiano il vitalizio. Oh. Quello fa l'imprenditore, guadagna, si preoccupa di 4.000 euro di vitalizio. Ma negli anni in cui ha fatto politica, pazienza, è giusto che le regole cambiano, sono cambiate fatto. Tante volte per gli italiani, adesso lo cambiano per i deputati e per i senatori. No. Arrivederci e grazie. Ma io in questo paese ci tratta come dei ladri non voglio niente, ridatemi indietro i miei soldi e fatemi fare il congiungimento con l'Inps. Finale, però non è giusto, aspetti, non è giusto aspetti, che io Raisi. Paghi una retorica per cui noi siamo dei ladri, dei corrotti e dei mascalzoni, gente che non ha mai lavorato la vita, io ho sempre lavorato. Allora, tecnicamente c'ha ragione. Lui prima degli ascoltatori, vi do qualche piccola spruzzatina di rom, naturalmente, perché ieri dalla vostra parte. Mettere un po' di populismo, certo, un po' dai alla casta, un po' di rom, poi che facciamo? Qualche negro, avanti, dai, forza, apri. No, avanti, avanti. Senti, apri le danze, mai una bella storia che racconti di orgoglio. Senti questo qua. Una storia di grande integrazione, di no, allora sempre rom, risse. Senti cose. Questo qua. Finirà sta trasmissione prima o poi. Mancano pochi giorni, amici, mercoledì, giovedì e venerdì. Li conti i giorni in cui sta baracca populista chiude! Chiude sta baracca finalmente! Ma poi ci sono le elezioni l'anno prossimo. I rom intervistati chiusa, dalla vostra parte. Da chiudere. Senti, ma se rubando uno prende 1200 euro, perché uno si dovrebbe mettere a lavorare 8 ore? Gli amici rom sono sempre molto espansivi. Do un consiglio. Parlano... Se... Perché, parla... perché, signori rom, voi parlate così tanto? Perché? Perché? Secondo te uno che va a rubare guadagna oggi 1000 euro, 200 euro, ma secondo te si mette a lavorare 8 ore? Ah, tu dici gli conviene di più, giustamente. Ma scusami, no. Va bene ragazzi, Salvatore da Roma, dai, Salvatore da Roma, iniziamo. Dai. Sì, salve, buonasera. Dimmi Salvatore, dimmi. Allora, io voglio capire una cosa, Cruciani, visto che tu ci stai sempre vicino quotidianamente. Non vicino, no, perché sono io a Milano, lui a Roma, eccetera. Meno male, no. Dove, come stai parlando, Salvatore? Con che attrezzo stai parlando? Con uno stetoscopio? Con che stai parlando? Con un altoparlante? Con mi che senti? Cosa? Sì, Salvatore, dimmi, dai. Sì, vabbè, posso andare via. No, niente, dicevo, come fai a stare vicino a quell'idiota di Parenzo? Ma che ha fatto? Buonasera, grazie per la chiamata, come sta? Ma per forza, Parenzo, guardi, molte volte ti difendo così. Come sta, come sta, come sta? Siamo in tanti, però ti posso dire una cosa, no? Come fai a essere così idiota su questa questione dei vitalizi? Ma uno avrà la sua idea anche. Non esistono, posso informare del fatto che non esistono più i vitalizi dal 2012? Non fare il leguleio, non fare l'avvocato. Dal 2012 esisteva un sistema fino ad oggi in cui dal 2012 i vitalizi non esistono più. Esiste oggi la pensione che i deputati avevano calcolato con il metodo contributivo. A Salvatore non interessano queste questioni. Deve saperlo. Non mi interessa un semplice discorso. La cosa è molto facile. Allora tu fai il politico, non fai un cazzo per questo paese, l'hai portato alla rovina, per me devi morire e devi fare un altro lavoro, ammesso che ce l'abbia, se no vai ai lavori forzati. Però, non me ne frega un cazzo, i lavori forzati, perché è l'unico paese di merda che forzati. Dà la possibilità a sti quattro ma dov'è cresciuto questo? La scuola è l'unico Naudi. Paese di merda che dà la possibilità a sti quattro coglioni di fare dei veri e propri sfaceli di questo paese, carne da macello noi siamo per loro, e poi addirittura si arrancano il diritto di prendere di più di quello che gli spetta. Quando gli spetterebbe per me niente. Allora, dovrebbero fare Salvatore, io sono gratis. Questa è proprio l'idea della democrazia. Ma perché non aboliamo il Parlamento? Noi non siamo un paese, siamo un finto paese democratico. Non è vero. Però scusami, amico mio, io dicesso che è un paese di dittatura, io magno e te la prendi in saccoccia. No, però scusami. Allora va benissimo. Salvatore, allora, io ti sono venuto, io ti sono venuto incontro fino a un certo punto, però amico mio, qui stai esagerando. Cioè i lavori forzati a gratis, a pane e acqua, tu vorresti arrestare tutto il Parlamento, Salvatore? No, forse non hai capito, forse non arrestare forse non... tutto il Parlamento? Sì, ma non è nulla. E che vorresti fare? Scusa, non è nulla. Che vorresti fare? Spiegami. Ma non è che te lo spiego. Chi governa io? Poi? Chi governa? Ma certamente non quelli che abbiamo adesso. Il Duce? Il Duce governa? Ma no, ma non sono di quel livello lì. Forse non hai capito. Non sono di quello. Fermala, io fermala, vorrei un fermala. Vero e proprio paese democratico. Ma non c'entra niente, non si capisce. Finta. Questa è la democrazia, amico mio. Purtroppo i vitalizi è una stortura della democrazia. Fermo. Niente, mi feci fa un pompelmo d'era un fiato, ma tu sapessi che goduria. David sta andando a trans. David sta andando a trans. Non c'è niente di male, è eterosessuale. David sta andando a trans. David sta andando a trans. David non è cattivo, ma a volte un po' passivo, ma solo con Efebal. Ah, e vabbè, vanno a trans. Se si divertono a prenderlo a quel posto, che io. Naturalmente. First date. Electricity. When you walk in, you suck my circuitry. L'altro giorno ho iniziato un viaggio di 12 ore che ero parenziano e volevo brocche per l'acqua dappertutto. Alla fine del viaggio sono diventato crucianiano e voglio solo i piedi delle donne in faccia. Mi sa che la ricerca canadese non aveva mica tutti i torti. Sweet tooth and I'm your chocolate bar. And it goes on and on. i mental coach per i rom, cagata atomica. Mandare i rom dal mental coach è come mandare l'orso dal mental coach. Zanzarosi, contattateci all'800 24 00 24 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Avaranzo, ma vattene a fanculo. Poca figa massaggio. Caro David, non sei preoccupato per il fatto che qualche generale... Ciao, delle... amore. Che succede? Oh, che succede? Chi sta? Ciao. Oh! David! È impazzito questo. David! David! Questo sta a parlare con la figlia. David! Roba incredibile, ragazzi. Con la figlia ci parli dopo, si parla dopo con i bambini. Ciao. Si parla dopo con i bambini. David! Una roba incredibile, guarda. David! Andiamo Sgarbi, dai, giusto riaprire le case chiuse. Cioè. Sì. Che nelle città ci siano delle zone a luci rosse dovrebbe essere una cosa assolutamente nella norma, siccome la moda vuole che anche in un paese cristiano come il nostro ci sia, per moda, ripeto, e non per diritti che c'erano comunque ci sono, stabilito le unioni gay, perché ci sono dappertutto, quindi ci vogliono anche da noi, ci faccia lo stesso con la libertà sessuale di andare in un casino. Se c'è in tutto il mondo, perché c'è in Germania e non c'è in Italia? Credo che sia grottesco che uno come Di Maio prenda 16 milioni di euro, 16 mila euro al mese, e gran parte di quelli che sono in Parlamento li prendano per non avere nessuna capacità e nessun merito. E trovo grottesco. Li restituiscono, quelli del 5 Stelle li restituiscono. Da 5 Stelle, posso parlare? Posso prego, parlare? Prego, prego Sgarbi. Che fatti da 5 Stelle, che è una legge incostituzionale. Ciò che è pregresso non può essere mutato da una legge, non puoi cambiare lo status di uno che ha vissuto e ha avuto una pensione o un vitalizio secondo una certa regola, per cui appena sarà votata, e non so neppure dal Senato, verrà impugnata davanti alla Corte, l'ha detto perfettamente Pisicchio, e verrà respinta come incostituzionale. L'idea di discutere è pura demagogia per buttare fumo alla gente e dire eccoci qua noi del PD, siamo come quelli di 5 Stelle, verranno travolti, no, perché non sono diversi. Nulla, e Richetti è una zucca vuota che parla soltanto per dire noi. Insomma, sì, non 5 per Stelle, tutti, Sgarbi, fanno cagare dal PD al Movimento 5 Stelle, sono patetici, ridicoli. O vogliamo le cose che sono... L'Italia non deve avere un casino perché c'è la Chiesa. L'Italia, nonostante la Chiesa, ha avuto le unioni gay e va benissimo. Quindi, siccome il mondo procede per mode, allora eliminiamo questa retorica della prostituzione per strada che scandalizza. Meglio una bella puttana del ponte di Calatrava. Sgarbi. E da questo punto di vista, se non puoi vedere, intanto non fai il ponte di Calatrava e poi fai una casa chiusa in cui conservi quelle persone che hanno, come dire, la possibilità di dare la felicità a qualcuno come un uomo la dà un altro Sgarbi. Uomo. Beh, devo dire che il professore su questa cosa delle puttane, hai sentito un po' l'intervistatore che diceva, David? Sì, ma hai sentito tutto il resto anche di quello che ha detto. Non prendi solo la parte che ti sono fa comodo. No, sono in disaccordo, glielo dico in faccia. Se vuole ci chiami pure. Glielo dico, caro professor Sgarbi, caro Vittorio, hai detto una grande cazzata. perché ci sono mille leggi che modificano anche il passato, che modificano il progresso. E senti, a me della Corte Costituzionale non me ne frega nulla. Facessero ricorso, non lo so, la Corte Costituzionale è la stessa Corte Costituzionale. Perché si mette in discussione il fatto che la democrazia, Parlamenti, le cose, se gestiti bene ovviamente, hanno un costo e non sono un problema per vergogna, le casse dello Stato, non vergogna. È quello il problema. Adesso comunque avete avuto la vostra, avete tagliato le teste, avete come per i capelli, avete preso le teste di questi deputati in mano grondanti di sangue. Avete ottenuto questa ghigliottina pazzesca che avete ti voluto. Voglio fare un piccolo elenco. Ora un usate quei elenco. Soldi per i migranti. Ma che per i migranti? D'Alema e Fini perdono 2.200 euro al mese, Marini 2.500, Bertinotti 1.900, Veltroni pure ne perde 2.200, Publio Fiori, re dei vitalizi, da 10.000 euro e rotti al mese perde 4.000 euro, il signor Nichi Vendola perde circa 2.000 euro. Ma cos'è che ti piace euro. Godo, di sta roba? Godo, beh, godo, ti basta poco godo. Mi pare ormai. Allora, articolo 50 dello Statuto Albertino, le funzioni di senatore e di deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione o indennità. Nel giugno, ma 1848, aspetta, ma lo Statuto Albertino. Aspetta, nel giugno del 1860. Uno statuto octroyé, come tu mi insegni, nel giugno, cioè concesso. L'ho studiata quella roba. Nel giugno del 1861 il senatore Roncalli propose il rimborso del biglietto del treno. Ma per ti paragoni aspetta, allo Statuto Albertino? Non sto Albertino. Facendo nessun paragone. Nel giugno del 1861 il senatore Roncalli propose il rimborso del biglietto del treno per i senatori residenti lontano da Torino. Bravo, giusto. La proposta fu respinta dal Senato del Regno con la seguente motivazione. Il Senato del Regno. Servire il paese è il un Senato aspetta. Del Regno. Servire il paese è un privilegio da vivere come un dovere. Chi lo serve in armi rischia tutto, anche la propria vita, senza nulla chiedere in cambio. Ma sei, guarda, questo è lo chiaramente è arrivato a citare lo Statuto Albertino del 1848 concesso da un cazzo di re. Questa è la esasperazione dell'opposto, del contrario. Ma tra quello che succedeva all'epoca. Pure monarchico da adesso. No. Pazzesco. Ma che cos'è diventata sta trasmissione? Ma cos'è? Ma è mercoledì 26, cosa manca? 27 e 28, due giorni. Conto i secondi che cala la Cler sulla corte, su Poli, su quel Mercù, su tutta sta baracca. Via, chiuso! Si va via, chiuso, due giorni manca, bisogna resistere due giorni. Poi si chiude sta roba indegna che è diventata sta fascia oraria indegna. Razzi dice anche Razzi, le donne. Adesso cita Razzi. No, cito Razzi, ma... perché è dalla parte tua, sei come Razzi, sei dalla parte di Razzi. Beh, adesso cioè, sei... cosa no, che dice anche le donne vedove, come quella di Andreotti, qui fa una piccola gaffa perché la vedova di Andreotti è morta. Piccola gaffe, dice potrebbero rimetterci anche le donne vedove, cioè quelle che prendono la reversibilità. Beh, sì, perché questa giusto. Vergogna del vitalizio è irreversibile. È irreversibile! È irreversibile! E ci sono persone che per 20-30 anni si hanno dedicato, dico un esempio, De Mita, D'Alema, Occhetto, o magari ce ne sono ancora tanti altri, cioè o magari gente che. Donne vedove che di parlamentari che. Tipo Andreotti pieno che... di donne vedove. Andreotti è una donna vedova. Andreotti è famosa donna vedova. Comunque ci va sono bene. Allora non si può meraviglia. Oggi farli, diciamo, tra virgolette, farlo morire di fame. Ci sono gente che hanno costruito l'Italia. Abolire i vitalizi. E ci sono contributivi come un operaio. Mi sembra una cosa giusta. Però per quelli maturati dopo il 2012. Beh, quelli che allora io dico. Sei entrato nel 2006. Io sono entrato nel 2006, però ci sono gente che hanno costruito l'Italia. Rinuncio al vitalizio se tutti rinunciano. Io il vitalizio lo posso rinunciare, io spero che tutti quanti lo rinunciano e che magari ci ridanno quello che hanno quindi versato. Quindi lei qui dice capito, io va. Voglio rinunciare al vitalizio? Io dico guarda rinuncio. In camera dico io rinuncio. No, da... io se tutti quanti rinunciano, rinuncio. No, anch'io. Che tutti quanti. Scusa. A proposito dei migranti, ti voglio segnalare, caro De Vito, non so se sei preoccupato, che alcuni generali di recente, negli ultimi giorni, hanno attaccato il governo. Per esempio un generale, forse l'abbiamo citato già ieri, un tale Vincenzo Santo ha detto non ci lascia bloccare l'invasione degli immigrati il governo, siamo rabbiosi, abbiamo gli strumenti per controllare le coste libiche senza metterci piede. Un generale della Folgore che si chiama se non sbaglio Perotti Andreotti dice sarebbe una catastrofe lo Ius Soli, l'Italia diventerebbe un inferno afro-islamico. Un altro dice ancora se non fermiamo gli immigrati l'Italia scompare, i generali contro il governo. Ti preoccupa questo, i generali contro il governo? Sì, ma i generali, no, mi preoccupa, i generali facessero i generali, fanno... Cioè i militari devono stare zitti, i generali. I militari su tutto devono stare zitti, sono un corpo che infatti è particolare, è gestito dal Ministero della Difesa, hanno delle regole di ingaggio particolari, hanno un codice d'onore loro. Non possono parlare contro il governo. Facessero i generali, altrimenti va benissimo, ad esempio c'è un generale che si chiama Al-Sisi, ad esempio, in Egitto, tal signor Al-Sisi, che ha fatto un mirabolante colpo di Stato, quello è un generale, non si vota molto in Egitto, ma poco male, no? Lì non c'è in Egitto problema di vitalizi, non c'è nessuno. Ecco, facciamo come nella libera Repubblica Democratica del generale Al-Sisi, che a me piace moltissimo perché è anche un amico di Israele, quindi a me il generale Al-Sisi, ho grandissima simpatia per il generale Al-Sisi. Però è un generale. Però c'è qualche piccola controindicazione, non si vota, il signor Al-Sisi manda spesso i suoi ottimi cingolati per le strade del Cairo e non solo, se fai una stronzata o dici qualcosa fai la fine del signor Regeni. Ecco, questo è l'Egitto, amico, però i vitalizi non ci sono in Egitto, non ti preoccupare, non ci sono i vitalizi. A proposito di militari, oggi mio amico Trump purtroppo ha detto una roba su cui non sono d'accordo. Praticamente ha detto che non vuole trans nell'esercito. Dopo consultazioni con i miei generali e gli esperti militari, ha scritto su Twitter, si prega di notare che il governo degli Stati Uniti non consente e non permette a individui transgender di servire a qualsiasi titolo in qualsiasi branca dell'esercito americano. I nostri militari devono essere concentrati sulla decisiva e travolgente vittoria, ha spiegato Trump, e non possono essere gravati con le enormi spese mediche e la rovina che i transgender comporterebbero. Che vuoi fare? I will be the greatest president that God ever created. Take a chance, give me a shot. You think I'm bluffing? Lo so, amico mio, non si può essere d'accordo su tutto. Non capisco perché qualche trans militare non fa niente di male. Alla fine si conterebbero sulle dita di una mano, no? Cioè i trans che entrano nell'esercito, chi se ne frega? Non mi pare un grande problema. Metteteli se non volete. Non mi appassiona. Però non è male questa cosa qua, non è male. Sono più preoccupato dal fatto che dicono che in 40 anni si sono dimezzati gli spermatozoi degli uomini occidentali, lo sai? È uno studio israeliano, però, dei tuoi amici dell'Università Ebraica di Gerusalemme. Dicono che nell'arco di 40 anni c'è stata una diminuzione del 60% degli spermatozoi maschili. Degli spermatozoi maschili. Non riesco a capire sto cazzo di ricerca come fanno. Ma non lo vedo come un problema, io ho già dato, figurati. Alfonso da Trapani, dai, no, anzi Silvia da Roma, vai Silvia. Pronto, mi sentite? Dimmi. Volevo dare ragione a Parenzo e Marino ai vitalizi. Sì, assolutamente. Addirittura, una che è a favore dei vitalizi. Signora, se ti piace farti rubare i quattrini, i ladri rubano. Allora, mi dicono che il generale Perrotti, citato da qualche quotidiano, ha smentito le frasi, sui migranti e sullo Ius Soli. Allora Silvia, dimmi. Allora, no, per un mero fatto pragmatico, nel senso che d'altronde la riduzione dei vitalizi dei politici, se deve far discutere tanto le camere e far perdere tempo, non risolverebbero certo il debito pubblico, no, italiano. Invece no, non si parla quasi mai di altre caste che con la previdenza tipo quella vostra. Ma che c'entra? Dai, è un'altra vicenda. Ha ragione la signora. È cambiato il sistema anche per i giornalisti. Non me ne frega niente di parlare dei giornalisti qua. Non me ne frega. Cambiassero tutto, non dessero più soldi dallo Stato a nessuno, va bene? Allora lo diciamo. Ma io lo dico, però non ci interessa. Per i giornalisti è già così. Mauro dalla provincia di Treviso, dai, non me ne frega niente di parlare delle cose nostre. No, ma è così, hanno cambiato la legge anche per i giornalisti. Mauro dalla provincia di Treviso, vai. Ciao Cruciani, ciao Parenzo. Ciao, quasi sempre d'accordo con Parenzo su quello che dice, però questa sera non sono d'accordo con nessuno dei due, perché Cruciani, parliamoci chiaro, approvare una legge che abolisce i vitalizi non è sufficiente. Come succede quando vengono riabilitati dopo essere stati condannati, che oltre a riattivarsi il vitalizio si prendono anche gli arretrati? Non solo gli sospendiamo il vitalizio, ma ci facciamo dare indietro anche tutto quello che hanno preso. Io questo, amico mio, non credo che accadrà, purtroppo. Non credo che accadrà. Sì, sarebbe il top, perché hanno fatto, hanno perpetrato un furto, un furto ai danni delle casse dello Stato, autoattribuendosi dei vitalizi che sono chiaramente dei privilegi. Il problema vero è che purtroppo questa legge probabilmente non passerà al Senato, poi magari ci sarà la Corte Costituzionale, è così, per cui figuriamoci farsi dare i soldi del passato. Ci vorrebbe veramente il pugno di ferro, perché... Che vuol dire il pugno di ferro? Il pugno di ferro vuol dire che bisognerebbe che lo Stato, con i suoi organi preposti, non certo dico con la violenza fisica... Ma non deve essere una passeggiata andare al Senato o andare alla Camera, non ti devono stendere i tappeti d'oro, devi servire lo Stato, non dico gratis, ma lo devi servire. Vuoi rinunciare al tuo lavoro perché vuoi servire lo Stato? A che cazzo ti serve la pensione? A cosa ti serve? Dici? Devi ma servire lo Stato. Ma uno che abbandona il proprio lavoro, sia esso un operaio o sia esso un grande professionista. Dopo due legislature minimo della pensione, dopo due legislature 500 euro. Ma perché deve essere penalizzato? Io non ho capito. Ma penalizzato rispetto a cosa? L'età pensionabile per i poveri lavoratori va aumentando sempre di più. Le pensioni si riducono, come intervengono su questi aspetti qua, possono intervenire benissimo. Ma infatti la posso informare, attento ascoltatore della maggioranza silenziosa, che dal 2012 non esiste il vitalizio. Esiste però il vitalizio. Per quelli futuri, non per quelli passati. Fermo. Non esiste il vitalizio. Però ci sono gente che hanno costruito l'Italia. Dai, Zucchero, non si molla un cazzo. Siamo tutti con te. Zucchero, la la la la la. Zucchero, la la la la. Zucchero, la la la la la. Zucchero, la la la la. Zucchero, la la la la la. Zucchero, la la la la. Zucchero, la la la la la. Zucchero, la la la la. Dai, cazzo. Dai, cazzo. La Zanzara. Qua giù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da Fallotto 0024 0024 oppure se volete mandare uno sfaccio i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701. 23:54, Calcutta nelle orecchie, e anche a quest'ora viva Parenzo, dai maggioranza silenziosa, siamo sempre di più, siamo i migliori. Abbassi i fascisti, tutta questa feccia. Via, tagliamo i rami secchi. Forza Parenzo. Porca puttana. Come cazzo devo fare? Non riesco a cagare. Mamma, che dolore. E se provassi? Ma vabbè, dai, mo provo. Ma questa è soltanto l'ultima vicenda, ma molto molto più grande, che si chiama emergenza immigrazione. Oh mio Dio. Visto che l'Italia forse funziona. Si trova sola ad affrontare. Forse funziona. Oh mio Dio. Forse funziona. Oh mio Dio. Dio, funziona. È simpatico. Grazie David. È un genio. Sì, perché ci ha perso del tempo, essendo un disoccupato, c'era meno tanto tempo da perdere. Però beh, è simpatico, perché almeno si è inventato qualcosa, cioè è stupido, perché ovviamente è uno stupido. Però nella stupidità ha impiegato il tantissimo tempo che ha a disposizione, perché non deve fare un cazzo dalla mattina alla sera, e quindi l'ha impiegato bene. Quindi è anche simpatico, ha la mia simpatia questa gheghina che ha costruito, anziché andare a lavorare, a produrre, a leggere un libro, a salvare un migrante, insomma, a fare delle altre cose. Salvare. Però almeno hai perché deve essere un'occupazione salvare un migrante, non la ho capito. Sua occupazione, sì, potrebbe salvare essere. Un migrante. Allora, una maestra di Rivarossa nel Canavese in Piemonte pare abbia scritto, ma forse ha semplicemente postato una scritta di altri, che è una paraculata per dire per essere d'accordo su una cosa ma non dirla direttamente. Ringrazio Dio, una professoressa a scuola, di una scuola elementare. Ringrazio Dio ogni giorno per avermi fatto fascista. Con tanto di tricolore sormontato dall'aquila. È il posto di una maestra di Rivarossa. Ora, ragazzi miei, se volete perseguire anche queste persone, se volete perseguire anche queste persone, non lo so, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo togliere dall'insegnamento, David? Vabbè, bisogna togliere la cattedra? Beh, io comunque mi farei qualche domanda su cosa insegna questa adorabile maestrina. Vabbè, del ma non Terzo credo Reich che insegnerà, ai... non credo che insegnerà il preside della scuola, ha già detto che non ha nulla da rimproverare, non penso che insegnerà va delle bene, cose ma particolari. Non lo so, ma se è tutto normale, per carità, tua fidelese, tua figlia è una signora simile, non lo so, mi qualche dubbio mi verrebbe, però per carità. Allora, la Brambilla dice che chi non ama gli animali è egoista nella vita. Adesso, amica mia, io amo gli animali, per carità, ma chi è che non ama gli animali? Cioè, nessuno non ama gli animali. C'è qualcuno che gli stanno sui coglioni, magari gli animali ai ristoranti, come Parenzo, per esempio. Se vede un animale al ristorante, la cosa gli sta su. Ma nessuno non ama gli animali. No, cioè... gli animali nei ristoranti, basta che non scorrazzi. Oddio, porta al ristorante l'animale. Ci saranno, lo porti per strada, lì quando mangi fuori. Scusa, al Baglioni, su, signor Feltri, quando lei va al Baglioni, vuole un cane in mezzo ai coglioni? No, ma voglio nessun cane, ma non me ne frega niente. Voglio mangiare tranquillo, bere dell'ottimo vino, ma me ne frega niente dei cani. Quasi sempre chi non ama gli animali, è cattivo con gli animali, è molto egoista, lo è anche proprio nella propria vita. Mamma mia, che banalità, questa qua è anche il leader del neo partito animalista che forse si vorrebbe presentare da solo alle elezioni, deputato della Repubblica, che dice delle banalità colossali, chi non ama gli animali è egoista nella vita, ma ragazzi, ma deputato, poi uno dice il vitalizio alla Brambilla, bisogna dare il vitalizio alla Brambilla, bisogna dare Brambilla, la pensione certo. alla Brambilla che dice queste robe, certo, ma ti rendi conto? Io la voglio dare, il vitalizio, voglio dare a chi ha fatto politica, non hai capito, anche a chi la pensa diversamente basta, da mettiamo, me, come scusa, l'amico Raisi, che ha militato per 20 anni in un partito che sicuramente non è il mio, Movimento Sociale Italiano, AN, eccetera, ed è una persona per bene, che ha fatto politica con i valori, che è stato allora? Ad attaccare i manifesti, allora? Che allora? È stato un buon deputato, allora? Certo, io non la penso assolutamente come lui, è una persona per bene, non è un ladro, non allora? È un ladro, non puoi che trattare c'entra? L'ottimo Raisi, di cui io non condivido nulla, ma non lo puoi trattare come un ladro, perché è una brava persona, ed è stato un bravo. Chi ha detto politico, che è un ladro? Ho onesto, detto semplicemente che godeva, bene, che godeva, che ha dedicato no, una parte della sua vita goduto, a questa grande cosa che è la politica. Avrebbe goduto di un vitalizio, avrebbe goduto mamma di un vitalizio mia, che era un privilegio. Questa roba qui, questa campagna che avete fatto. Ancora non è definitivo, per il momento però si gode perché fino a quando il Senato non approverà non possiamo godere fino in volo. Però godiamo un po' per il fatto che si tolgono dei soldi ai deputati e ai senatori. Godiamo un po'. Allora voglio farti sentire Alilovic contro Poletti, signor Poletti. Un rom Poletti. Contro Poletti, classico scontro da Poletti, dalla vostra non parte. Il ministro, no, non Poletti, il ministro, il giornalista barra militante inviato del signor Del Video. Alilovic contro Poletti, cioè un rom contro un paraleghista, diciamo, un giornalista no, paraleghista. È un inviato, un giornalista sì, inviato. Comunque, chiaramente uno che è contro l'immigrazione, contro i rom, eccetera. E certo, se io rubassi 500, 1000 euro al giorno, certo che non andrei a lavorare, andrei allora a rubare, ma questo non vuol dire. Cultura, ma no, non sto giustificando, sto dicendo che sta mi sto integrando. Ce li trascineremo, non mi sto per giustificando, mi sto e solamente integrando che voglio lavorare, ma il mental coach non può sussistere dentro in eterno, i campi nomadi. Mental coach non può sussistere, a queste non può sussistere un allora il problema che è relativo perché poi si urla troppo e non si capisce nulla. Ecco appunto. Dove andiamo? Enrico da Pordenone, vai. Enrico da Pordenone. Ciao Cruciani. Dimmi, dimmi. Volevo intervenire un attimo e dire una cosa a Parenzo che non condivido assolutamente. Secondo sì, me è giusto qua. Il taglio dei vitalizi parlamentari, giusto per allinearli alla media degli altri politici europei. Uno. Due, non mi sembra assolutamente giusto che i soldi tagliati dai vitalizi vadano ad aiutare l'emergenza immigrazioni, perché ma lo dice così, ma lo dice così. No, lo dico, sarebbe intelligente da fare. L'emergenza immigrazione dovrebbe essere aiutata con i soldi della Comunità Europea e i già soldi dei fatto. Vitalizi io li userei piuttosto sul territorio. Vabbè, ciao Enrico, Andrea dalla provincia di Alessandria, vai. Mica stiamo a porta a porta qua. Andrea dalla provincia di Alessandria. No, come usare rischio, i soldi dei vitalizi, ma dai su, Andrea dalla provincia della Standia non ce ne frega un non cazzo, c'è il rischio che la nostra conversazione ecco, diventi meno male. Lo stesso ritmo, no, meno male semplicemente perché è diverso di porta appunto a porta. Andrea dalla provincia della Standia è una cosa diversa, no? Mica sto dicendo. Antonio da Bari, vai. Pronto? Dimmi Antonio, dimmi. Ciao, senti, volevo andare a fanculo, come si chiama? Chi? Cruciani, perché ha sì, detto sono io stronza... imbecille. Appunto, dai, detto una stronzata sui vitalizi. Quale sarebbe la stronzata? che bisogna togliere i vitalizi ai parlamentari, addirittura citando lo statuto Albertino. Ma no, ma quello era chiaramente una butade, imbecille, non hai capito niente, dai, solo cretino. I ricchi allora devono fare ecco l'altra stronzata, ecco la stronzata del cretino delle 19.42. È un argomento interessante. La stronzata del cretino delle 19.42, avanti. Il pentastellati. Ecco il cretino delle 19.42. Delle cose che votano. Guarda che ti segnalo che questa legge è stata voluta da un signore che si chiama Richetti ed è ancora uno dei principali collaboratori del signor Renzi. Per cui di che parli? Di cosa parli? E chi l'ha votata insieme a Renzi? Sto dicendo. Certo, i grillini, non c'è dubbio. Appunto, quelli non fanno un cazzo. Ma non lo so se non fanno un cazzo, a me non mi interessa di queste cose, grillini, PD, eccetera. Questi qua non potranno più fare politica. Tu che sei il figlio di un politico? Sei il figlio di un politico? Ma cosa sei? Figlio di politico, magari. Perché non prendi i soldi che prendi tu per fare sta merda di trasmissione. Ti quello sono cazzi di altre persone. Che ti interessano a te? Che ti interessa a te? Che ti interessa? Tu contribuisci a farmi prendere dei quattrini. Contribuisci a farmi guadagnare dei quattrini. Vergognati allora. Vergognati. E chi se ne frega? Vanno bene i soldi che prendi appunto. Tu. Perché li prendi, puoi dire che dobbiamo parametrare i soldi ai risultati. Amico mio, per me i vitalizi vanno aboliti, ma godo se tolgono qualche soldo a quelli che hanno preso fino adesso, vitalizi che sono esagerati e sono un privilegio rispetto a quello che prendono di pensione le persone normali, chiaro? Ma certo che sono un privilegio. E allora che vuoi da me? È un privilegio, deve che vuoi da me? Privilegio. Fare buona politica deve essere. Ma lascia perdere, che c'entra? Ma chi lo decide se è buona o cattiva? Ma chi? Dai! I risultati lo decidono. I risultati di cosa? Di cosa? Di chi? Se l'economia va bene o va male, se l'economia va bene o va male. E allora, da questo punto di vista, dovremmo bocciare tutti. Da questo punto di vista, sì, dovremmo bocciare tutti. Dovrebbe bocciare tutti, sì, ma in futuro. Vabbè, ciao Antonio, non hai argomenti, nessun argomento. Sandro dalla provincia di Milano, vai, Sandro. Sì, ciao, buona serata a tutti. Dimmi. Solo una piccola cosa, io faccio parte di quelli che non chiamano mai, che si fanno sempre gli affari loro, ma va bene così. Bene, dimmi. Ho sentito bello, un bel silenzio, non fu mai scritto, bravo. Bravissimo, io dico solo una cosa, io ho sentito una cosa aberrante prima, che i risparmi dei vitalizi dovrebbero essere destinati a tutti i migranti. Parenzo, prenditi la comparenza, no, io dico che ci sono tantissime persone che hanno davvero tanti altri bisogni e sono bisogni di tipo primario. Però il bisogno della sicurezza di tutti quelli che urlano e blatterano nelle piazze italiane, sicurezza non li vogliamo, la sicurezza come la garantisci? La garantisci la mettendo queste persone nella condizione di stare meglio e di non nuocere. Quello è sicuramente una cosa molto importante, appunto, ma dico che altrettanto importante pensare, non è per un discorso nazionalistico, ci mancherebbe. Ma ragazzi, però tu sei ragionevole, Parenzo, l'idea di Parenzo è una follia. È una follia pura. Detto questo, io vi abbraccio forte e vi auguro una buona serata. Ciao Sandro. Ciao. Grazie ciao, molto. Ciao. Allora, caro David, un paio di anni fa il professore emerito nonché avvocato Carlo Taormina ci disse che lui usava il suo vitalizio per darlo ai cani, per darlo ai suoi sì, cani. Mi ricordo. Oggi in un'intervista al Fatto Quotidiano dice: io sono grillino perché sai che è diventato un po' grillino recentemente. Non lo sapevo. Però sono a favore del vitalizio. Ma cosa vuol dire? Cioè, è una cosa pazzesca. Ora io vorrei capire. Ma è logica. Se uno è grillino restituisse il vitalizio. Certo. Restituisse, rinunciasse al vitalizio, lo deve dare ai grillini, lo deve dare, che ne so, alla Casaleggio Associati. Bravo. Lo deve dare a qualcuno, perché essere grillini, essere addirittura iscritti, come dice lui, al Movimento del Grillo, significa essere contro il vitalizio, ferocemente contro il vitalizio, alla Cruciani maniera. Chiamiamo, vai. Pronto? Carlo? Poi dimmi, Carlo. Ciao, sono Cruciani, come stai? Bene. C'è anche David, certo, qui, grande fuoco. Saluto. Lo vedi in onda, a battagliare in onda, sì. Beh, quello è il posto suo. Senti, a proposito di posto suo, ma questo vitalizio che facciamo? Aspetta, lo teniamo o no? In che senso lo tengo? Te lo tieni il vitalizio, sì. Per quale ragione? Certo. Lo hanno erogato in base ad una legge dello Stato che se fosse modificata sarebbe non costituzionale perché è violatrice dei diritti quesiti. Cioè tu dici sarebbe una vergogna se modificassero questa legge retroattiva facendo... No, sarebbe un fatto incostituzionale. Dottor Vabbè, quello lascialo decidere la Corte Costituzionale. Come si fa a essere grillini col vitalizio? Ti dico da... guarda, io sono... di questa idea che ci dovrebbero essere un quarto dei parlamentari che stanno attualmente in Camera e Senato. Vabbè, ma questo che c'entra però? Taglielo allora alla Casaleggio Associati, scusa, vitalizio. Ed essere trattati, ma io del mio vitalizio faccio quello che voglio. No, giustamente Parenzo dice, ma come si fa a essere grillino e a favore del vitalizio? E tutti quelli che sono politici cattolici e poi c'hanno quattro mogli, ma no, che roba è? Assolutamente. È l'ipocrisia, pazzesca. Il movimento è fatto di tante idee che si condividono, ma anche non... di altre che non si possono. No, ma scusa, se c'è una cosa su cui i grillini sono tutti compatti è contro i vitalizi. Non è assolutamente vero. No, ma comunque tu sei grillino col vitalizio, è una contraddizione. Dimettiti da grillino, assolutamente, guarda. Mi dispiace per voi, ma non mi dimetto da grillino. Ma scusa, perché se no è una paraculata, come quelli che è una paraculata. Ma dai, ma dovresti vergognarti pure tu, Carlo, dai. Ma io non mi vergogno affatto, perché io in Parlamento ci sono stato 5 anni, ho lavorato. Appunto, 2150 euro di vitalizio per soli 5 anni, sei un privilegiato, sei. Ho lavorato per 5 anni in maniera assolutamente totale e totalizzante. Ma questo che vuol dire? Ma non vuol niente questo. La battaglia dei 5 Stelle oggi è contro i vitalizi. Tu dovresti immediatamente rinunciare al vitalizio subito proprio, ma no, io dico senza aspettare neanche 2 minuti, capito? Ritengo che su questo punto i vitalizi anche perché guadagni talmente bene, talmente tanti soldi che sbagliano, dici. Questo significherà che io vitalizio che percepisco lo dedicherò a cose che ritengo meritevoli. A che ci fai col vitalizio adesso? Ma faccio tante opere di solidarietà sociale. Cioè, non ho capito. Il vitalizio, quanto lo prendi di vitalizio tu? Quanto prendi? Ma non lo so nemmeno, guarda, perché come non lo controllo. Come non lo so? Non lo sai. Sono soldi ma che entrano. Ma mica sto a vedere quello che mi entra. Ma come? Scusa, saprai quanto guadagni, no? Ma non lo so quanto guadagni. Ma scusa, come fai a sapere quanto vitalizio prendi? Ma non lo so, non so manco lo stipendio universitario che prendo. Ma perché? Perché l'università? Certo, ma scusami, Carlo, scusami, però come fai a sapere esattamente quanto prendi di vitalizio? Non lo so. Non è possibile, non lo so. Dai, su, lo saprai, no? Oh, ma che ti posso dire? Se non lo so, non lo so. Ma no? Questa è una vergogna, ma no, significa sostanzialmente che manco ci fai caso. Manco ci fai caso. Nemmeno ci faccio caso, certo. Allora, ma come nemmeno ci faccio? Certo. E allora qual è il problema? Ma 2150, te lo dico io, 2150, è possibile? È possibile? Non lo so, può darsi. Ma come te lo devo dire? Ma come può darsi? Cioè per te non valgono niente 2500 euro? A me non me ne frega niente di 2500 euro, me frega proprio niente. Cioè non ci fai nulla? Non ci fai nulla? Assolutamente. Cioè, ne puoi fare a dire, ma è uno sfregio. Ma come ma si fa a dire una cosa così? Non è uno sfregio, poi ognuno il denaro lo utilizza come meglio crede. Ripeto, io e ci paghi l'autista con quello sempre. Ma ci pago personale, moltissimo personale al quale do lavoro. E quanti tipo? Persone tipo? Che 15 beh, persone? Certo, fra personale domestico. Personale domestico? Allora perché? Che cazzo stai a dire? Qual è il problema? Che ti meraviglia? Perché non ce l'hai le persone che ti aiutano in casa? Ho una persona che collabora con noi, ma le persone. Quante domestici hai? Per cui avrò più persone. Ma quante persone hai? Quante case? Che vuol dire residenze? Che significa? No, ma quante persone ha al tuo servizio? Scusami. Ma che ne so, saranno 10, 12, non lo so. Ma come 10? Cosa vuol dire 10 persone al servizio? Cosa ma ci paghi l'autista? Ma sei rincretinito oppure proprio... Ma hai l'autista o no? L'autista ce l'hai o no? Certo, autista, ho personale in studio che lavora e che produce, che giustamente guadagna. No, ma dico personale di servizio, intendo a casa, quanti ce n'hai? Ma non so, 4, 5 persone, non lo so. Cioè, basta, guarda, scusa, su questo punto credo di aver detto abbastanza. No, ma il cameriere ce l'hai? Va bene, mi dispiace, la prossima volta... Certo che c'è il cameriere, perché non ti vuole il cameriere? Qual è il problema? Cameriere autista pure, l'autista. Certo, naturalmente, perché qual è il problema? No, dico, allora, però... perché vivere di quello che si guadagna onestamente e che si denuncia regolarmente no, assolutamente capirai bene, Carlo, capirai bene che se uno dice io ho l'autista benissimo, ho il cameriere e altre persone di servizio e non so nemmeno quanto mi entra rientra di vitalizio, non ci voglio rinunciare. Sì. Qual è il problema? E dico pure che sono grillino. Vergogna. E qual è il problema? Ma qual è il problema? Io non ho mai visto un grillino con tutto il personale di servizio a casa. Chi se ne frega? Io faccio il grillino, sono un grillino perché voglio abbattere questa partitocrazia che mi fa schifo. Ma la casta sei tu, cosa abbatti? Ma quale casta sono io? Ma quale casta? Io sono uno che lavora come un cane la mattina alla sera. Quello sì, ma ho capito, hai fatto il deputato, allora, contemporaneamente hai fatto anche l'avvocato, allora eri sottosegretario alla giustizia e difendevi i mafiosi, è tutto il contrario dei 5 Stelle. E allora a te che te ne frega? No, però ma no, ma è una contraddizione, allora i grillini non difendono i mafiosi. Ma chi l'ha detto? No? Amico mio, rinuncia al vitalizio. Ma allora, per sogno, perché, ce ne perché ci paghi, tu ci paghi, ma l'autista col vitalizio, ci paghi l'autista. E allora? Ma no, vabbè, come allora? Con l'autista col vitalizio, il personale di servizio? Io pago l'autista con quello che guadagno dalla mia. E che ce fai con questi 2100 euro? Ma che ne so che ci faccio? Ci farò delle opere buone, ci comprerò il gelato quando mi serve e ci faccio quello che voglio. Ma 2500 euro di gelato, 2150. Ma siete proprio stronzi, guarda, proprio ve lo devo dire in faccia, perché state facendo un ragionamento di un qualunquismo unico. Ma che qualunquismo? A noi? Ma per carità, scusami, saremo anche due stronzi, sì, però no, stesso sicuro. No, però scusami, sicuro da vedere. Scusami, tu hai, tu dici di fare una vita agiata, allora, una vita agiata. E a te che te ne frega? No, per carità, va bene. Poi dopodiché non sai nemmeno quanto ti entra di vitalizio. Allora, certo, dai. Cioè tu non sai nemmeno l'importo, ma la gente normale, ma che prende 600 euro, ti interessa di chi? Ma come, chi se ne frega della gente che piglia? La gente che piglia 600 euro di pensione te ne fotti? La gente che piglia 600 euro di pensione? Io penso a chi ha bisogno e faccio in modo di poter sopperire a chi posso in qualche modo aiutare. Ma rinuncia a un privilegio, rinuncia a un privilegio. Lista 5 Stelle, per me tu non puoi fare, io la contraddizione è questa. La contraddizione che hai è questa, tu fai... Aspetta, piuttosto di dare i soldi allo Stato, sì, preferisco fare io cose per il prossimo. Dallo all'Arcigay, dalli all'Arcigay, dalli all'Arcigay. Dagli tu agli Arcigay, io agli Arcigay non ho proprio niente da dare. Mai. No, mai. La grande mai contraddizione è quella di fare i moralisti sul piano politico. Allora, io non faccio il moralista sul piano politico. E certo, 5 Stelle fa il moralista. Io faccio. Tu rispondi a Di Maio, sei iscritto a 5 Stelle, rispondi a Di Maio. Io non rispondo a nessuno. E Di Maio dice che è un privilegio. Di Maio dice che è un privilegio. Io non rispondo a nessuno. Ciao Carlo, ti abbraccio. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Mamma mia, che battaglia, amico. Stai ancora ridendo tu, ancora non ti sei ripreso. Stavo ridendo perché effettivamente la cosa allora, che ho detto, sei un pazzo strutturale, sei un pazzo strutturale. Chi? Dormina mi ha detto, sei un pazzo strutturale, tu sei un pazzo strutturale. Col cameriere, certo che ho il cameriere, certo. E l'autista, certo che c'ho l'autista. Allora, e allora? Siete proprio stronzi, guarda, proprio ve lo devo dire in faccia. E questo, vabbè, perché... Emanuele da Roma, vai. Comunque, ragazzi, quello che dice Dormino Paolo dice che la gente non si incazza. Quello non sa nemmeno la cosa più incredibile, al di là dell'autista, del cameriere, delle residenze, le residenze, eccetera. Che uno... Sì, molto bello, perché non ho le case, le residenze. Voglio usare anch'io il termine residenza. Sì, la mia residenza. Ho diverse residenze, no, ma va bene, va benissimo, per carità, guadagna anche un sacco di soldi facendo l'avvocato. Però non sapere nemmeno a quanto ammonta il vitalizio, cioè non sai nemmeno, perché è talmente una, è un'entrata talmente indifferente, sì, quei certo. 2150. Beh, che vabbè, proprio, forza, ma nemmeno questo, la calcoli naturalmente, ma ne questo guarda... qualunque professionista di quei che comunque guadagnano certe cifre, sì, sono abbastanza incredibile. Emanuele da Roma, dai Emanuele. Buonasera ragazzi. Dimmi. Niente, io volevo fare una domanda a David. Eccoci. Allora David, io sono stato sempre dalla tua parte. Sì. Ma te la posso fare una domanda? Falla, vai, veloce. Ma che te sei rincoglionito, David? Certamente. Cioè. Dunque, per rispondere a questa sua osservazione, perché, dovrei ricorrere alla... David... No, però fai spiegare il perché. Perché sei rincoglionito? Un David che è da parte di questi politici che prendono i vitalicci. E come, come fai... Non sono dalla parte dei politici che prende vite, sono dalla parte per difendere la classe politica e il Parlamento e le istituzioni. Ma da che cosa? Cioè, ma il vitalizio non esiste più. Stanno, hanno cambiato giustamente il sistema pensionistico, ma perché devi andare a togliere la pensione? Non cioè togliere, certo, Davide, poverini. Allora, ma diminuire la pensione, so, ci sono persone per bene che hanno dedicato una vita a fare politica e non sono dei criminali. Prenderanno 2000 euro in meno, pazienza, prenderanno 2000 euro in meno, 1.900, 2.000, 3.000, non ho capito, hanno usufruito per anni di un privilegio, adesso cala la scure, la mannaia, 2000 euro in meno e basta, muti a casa, tanto già ne prendo. Ho veramente paura. Come di si chiama ho il paura. Signore che avete intervistato prima lì? Taormina. Allora è stato 5 anni e prende 2100 euro, 5 anni in Parlamento, 5 anni, ragazzi, uno si dovrebbe vergognare. Cioè, di che cosa stiamo dai David, su, per favore, io ti voglio bene, sto sempre dalla parte. No, ma io volevo tua, semplicemente, volta, voglio semplicemente difendere un principio. Ma non che c'è è quello nessun principio sull'onda da difendere. Dell'abbattiamo la casta, abbattiamo la ripeto, politica. Ripeto, Fini e D'Alema 2200 euro di meno. E se siete contenti. E si gode. Ciao, ciao. Boldrini, scusami, sei una brava ragazza. Boldrini, sei un'amica dei cristiani. Ed è morta. Intervengano i commessi. Boldrini, ed è morta. Camionare come il cane, fa la vita da cane, dorme nella cuccia, mangia nella ciotola, piscia e caga contro la gomma. Allora, un camionaro come voi ve lo dice, eleviamoci, usciamo dalla vita da cane, cerchiamo di essere diversi dagli animali, dai cani, torniamo a essere umani, a non farci ridere in faccia, a non far scappare la gente. Perché noi siamo lavoratori come gli altri, dimostriamolo. Basta gente come si chiama là, come Chirico. Basta, cercate di essere umani. Il parlamentare è un nostro cazzo di dipendente, nostro, lo paghiamo noi, quindi decidiamo noi quanto cazzo vale, Parenzo, cerca di farti un esame di coscienza, va, vieni giù dal piedistallo per cortesia, mica che prima o poi nella tua vita ti capita anche a te di dover andare a elemosinare lo stipendio in giro, ma per favore, va, ma cerca di riprenderti, va, rimbambito. Allora, caro David, andiamo a sentire Vincenzo da Frosinone. È una giornata triste quella di oggi, molto. Vincenzo, ma non da per ragioni di depressione o altro. Questa roba dei vitalizi mi butta giù. Mi butta giù la propaganda che hai costruito. Mi butta giù queste voci che fai sentire di un popolo in la rivolta. Gente è incazzata. La gente è incazzata. Sai che a me la parola la gente mi sta sui sì, coglioni. Sì, lo so, ma io le persone vedono discriminazioni. Le persone. Ma di che cosa? Ma che cosa stai dicendo? Le persone vedono, il parlamentare è diverso dai cittadini comuni. È il parlamentare. Non dovete rompere le scatole. Si chiama deputato. Deputato e senatore. Rappresenta il popolo. Che deve roba avere vecchia, garanzie, che roba vecchia. Prebende. Deve avere anche. Mi avete stufato. Che roba il deputato vecchia. Deve essere uguale a noi. Certo, uguale a te. Assolutamente. Ma uguale a te un cazzo. Il deputato deve mettersi la giacca e la cravatta. Deve essere persona che per c'entra bene. Quello anche, deve essere quello anche... pagato. Tanto. Ma chi ha deve essere tanto. Pagato anche tanto. Chi ha detto certo, tanto? Non è un tuo dipendente. Questa, avete alimentato in questi anni un falso mito. Certo, che è un oggi tu la trasmissione non la fai. Parlo solo io. Avete alimentato un mito in questi anni perché dice, è un nostro dipendente. Assolutamente. Ma quale dipendente? Certo, ma non è un dipendente, è un dipendente della democrazia. Non è un tuo dipendente. No, è un dipendente da chi l'ha votato, dunque mamma del popolo. Mia. Un dipendente. Su questo Grillo ha ragione, non c'è dubbio. Siete Vincenzo, ormai. Vai, Vincenzo da Frosinone. Ma non me ne frega niente di Vincenzo. Parlamentare. Vai Vincenzo, vai. Popolo. Buonasera. Volevo dire, il parlamentare è un dipendente del popolo, le do ragione, ma è anche vero che anche il poliziotto è un dipendente del popolo. Sì, però aspetta, Vincenzo, non ti sentiamo, metti di meglio, per favore, dai. Metti. Volevo dire che anche i poliziotti però rappresentano tutto lo Stato italiano, Cruciani. Sei in viva voce, Vincenzo? No, assolutamente, sono il telefono. Auricolare? No. Assolutamente. Allora, Vincenzo, dicevi? Dicevo, anche il poliziotto però che sta a 20 miglia rappresenta tutta l'Italia. Cruciale. E allora? Allora? E quindi quel tipo di affermazione... No, non ti sento, scusami Vincenzo, però abbi pazienza, mettiti bene, altrimenti aspetta, non ti sentiamo. Mi senti adesso? Dai, dimmi. Volevo dire, anche anche il poliziotto rappresenta tutta l'Italia e mi sembra che lui invece l'anno ieri nella stazione ha usato più un modo privato di sbrigarsela con il ha detto qualche parola di, ha detto qualche parola di troppo, ragazzi, Luciani, l'ha detto troppe, perché io sul razzismo ho una mia idea personale. Scusami Vincenzo, che cosa ha fatto di così grave quel poliziotto a Ventimiglia? Ha detto delle cose che non si possono dire. E che cosa? Tipo per esempio arrivartene in Africa, quello è razzismo, Cruciani, perché se tu la prima volta incontri un negro e per scherzare gli dici negro di merda e poi... Ma non ha detto negro di merda, ha detto torna in Burundi, ragazzi, è un'espressione di esasperazione. Ma qual è il problema? Qual è il problema? Quello lì non voleva andare via da un posto in cui non si può stare. Quel poliziotto lì, senza picchiarlo, senza malmenarlo, in altri paesi fanno anche di peggio, senza fare nulla, lo ha invitato ad andarsene. Questo resisteva un attimino. A un certo punto, quella persona però fosse così tanto, come dire, ma Vincenzo, non ho capito bene, volete condannare un poliziotto o mettere al patibolo un poliziotto? Quel poliziotto io da tanti anni sento dire io sto con la polizia, ma non ho capito, lo conosci tu questo poliziotto? No, non lo conosco il poliziotto, ci mancherebbe. Però voglio dire, noi da tanti anni sentiamo dire io sto con la polizia e sto con le forze dell'ordine, con la polizia e con le forze dell'ordine, bisogna starci quando si comportano per bene i rappresentanti della polizia e delle forze dell'ordine. Ma io non sto dicendo niente, sto dicendo che va bene un rimprovero, un richiamo verbale. Parenzo, cosa vuoi fare di più di un richiamo verbale a quel poliziotto? Lo vogliamo sospendere? Non lo decidi tu, lo decidono gli organi preposti di polizia, e non si fanno campagne come stai facendo tu a sostegno di una persona che ha tenuto un comportamento indegno per quella divisa. Ma questo è il punto, è molto semplice. Indegno per la divisa perché ha detto vattene in Burundi? Torna in Burundi? Non è noi con Salvini, se l'avesse detto uno di noi con Salvini uno direbbe vabbè, benissimo, ragazzi, della Lega, d'accordo. Se vi piace così. Marco da Bergamo, dai Marco. Sì, buongiorno Parenzo e Cruciani. Buonasera. Tre cose velocissime. Io sono completamente contro Parenzo per tutte le cose che ha detto in questi giorni. Bene, benissimo, meno male, sono contento. Te lo dico Parenzo, però mi sarei preoccupato altrimenti. Ok. Sono felice che lei la pensi diversamente da me, meno male. No, guardi, glielo dico subito il perché. Lei è favorevole all'immigrazione, giusto? Non all'immigrazione, non è, cosa vuol dire essere favorevole all'immigrazione? Sì, favorevole all'immigrazione, ha detto anche se vengono tutti vanno accolti perché comunque abbiamo bisogno, quello è chiaramente detto, è un fenomeno che c'è, che è evidente, cioè contrastare l'immigrazione, di contrasto la pioggia. Cosa vuol dire contrasto la pioggia? La pioggia c'è, mi apprezzo, mi organizzo, no? Sempre posizione che vanno aiutati. Certamente, assolutamente, e portano contributi, gente intelligente, nuova, fresca, in un paese di vecchi e anche un po' rincoglioniti. Però paese di vecchi e rincoglioniti, vabbè. Come l'Italia è un paese di come dimostra spesso questa trasmissione. Forze nuove arrivano e vedrai che si creerà anche un po' di concorrenza. Ma finalmente finirà sta roba, un po' di rompicoglioni se ne andranno all'estero. I migranti porteranno novità, come hanno fatto in tutto il mondo, certo. Vabbè, allora, l'America è diventato un grande paese grazie all'immigrazione. Ma se è pieno di delinquenti? Il tasso di delinquenti rispetto a quelli che arrivano è molto alto, ma è normale che sia così. Ma in Italia arrivano delinquenti. Il più grande numero di premi Nobel arriva dagli Stati Uniti e non dal resto del mondo. C'entra? Come mai? Perché ma è un paese c'entra? Che ha una forte immigrazione, ha un tessuto sociale diverso, questo è il punto. Ma è un'immigrazione di dipendenti. Comunque fate quello Marco, che volete. Dimmi, ok, allora, lui è favorevole all'immigrazione, questo non c'è dubbio, però è contro la prostituzione, ben sapendo che tantissime di queste donne, soprattutto quelle più piacenti, vengono buttate su una strada. È contro il lavoro nero, però so che tantissimi di questi ragazzi... Ma questo non c'entra niente, tutti siamo contro il lavoro nero, scusa, che c'entra? No, ho capito, però... ho capito, certo che una conseguenza è che arrivano gli immigrati e li sfruttano per il lavoro nero, però la colpa non è di chi viene sfruttato, è la colpa di... Allora favoriamo la delinquenza, favoriamo il lavoro nero. È una conseguenza diretta questa. Ti posso dire che non c'entra niente, però. Nulla. Ti posso dire che non c'entra niente. Non c'entra nulla, perché... Detto questo, io la penso così poi. Contro il taglio del vitalizio, ok? Ha preso una posizione assurda, Parenzo, perché... Non c'è il vitalizio, non esiste più. Allora, non esiste il vitalizio, la informo che dal 2012 non esiste il vitalizio. Non c'è il vitalizio, non esiste dal 2012. Esiste ancora, l'hanno chiamato in un altro modo, vai. Se è una pensione con un sistema contributivo, è una pensione, non è un vitalizio. Vale ancora per quelli vecchi, vai, Vincenzo da Frosinone, Manuel da Novara, vai, Manuel. Ciao a tutti, dimmi. Ciao Parenzo, ciao Davide, Cruciani. Sì. Ascolta, io sono camionista da circa 35 anni. Sì. Niente, ce l'avevo con quel deficiente demente che dice di essere un camionista di nome Alessio. Le volevo solo dire che se lui fa tutto il fighettino, tutto il testa di minchia sul camion che guarda le cosce delle altre, sì, ciò vuol dire che non c'ha un cazzo da fare. Allora, ma perché c'entra? Quello ha detto quando è in fila guarda le gambe delle donne, i piedi delle donne. Non mi sembra che abbia detto una cosa così scandalosa. Perfetto, no, su quello va bene, però che poi deve dire che noi camionisti puzziamo e facciamo un lavoro che secondo lui non è bello, che cambiasse il lavoro, bruciasse la patente è deficiente. Perché questo qui fa il camionista col culo, te lo dico io. Ma che ne sai tu, scusa, che ne sai? Ma ecco, cosa ne so, perché uno che parla così del proprio lavoro e dei propri colleghi ha detto che siete sporchi, siete tutti sporchi. Siamo, e puzziamo. Puzzate come le bestie? Puzziamo, ecco. E invece non è vero. E andate a prostitute perché non riuscite ad andare con le donne normali perché puzzate troppo. Ma guarda, che andiamo a prostitute posso anche ben essere d'accordo, perché a volte stai 15 giorni senza vedere la moglie. Per cui tu vai a prostitute, d'accordo. Manuel, tu vai a prostitute. Certo, quando ho voglia, ho 10 euro, 20 euro in più in tasca, certo che ci vado. Ma 10 euro, 20 euro? Ma scusa, perché non si compra? Voglio capire, perché non si compra un libro, ad esempio? No, ma perché mi devo comprare un libro? Fammi capire. Perché con un libro, lei con un libro può evadere con la mente, può imparare delle cose nuove, può immergersi in questo grande racconto. No, non ti preoccupare, che io non ho 20 anni, ne ho 50, quindi non ho bisogno di viaggiare con la fantasia, ci viaggiavo 30 anni fa. No, legge un bel libro, con 20 euro si compra un libro anziché comprare il corpo di una donna. Col libro non mi sfogo, capisci? Cioè, come non ci sfoga? Sfoga la mente, apre la sua mente anziché il suo pisello, scusi, mi pare evidente. Però scusami. Allora Alessio apre il culo al posto della mente, cioè fammi capire. No, però Alessio, ma c'entra, lasciamo perdere Alessio il camionista pescarese che è intervenuto ieri. È interessante la questione, dice Manuel, e su questo devo dire che è un po' ha ragione, si può anche alternare, Parenzo, no? Qualche volta vai a puttane e qualche sera ti leggi un libro, cioè non mi pare così strana la cosa. Però mi stupisce, questi 10 euro, 20 euro, ma così poco, non ho capito. Per dire, ci sono anche quelle 10 euro. Ma come sono fai? Amico mio, questo qua è come la cosa, scusa, hai speso qualche volta anche 10 euro tu? No, io mai, però ci sono. Sì, però amico mio, è come andare, è come bere dalle bottiglie di plastica, come dice Davide, se uno deve fare le cose e prende le brocche, no? Cioè, o no? Certo, no, per dire, ma tua moglie lo sa? 10 euro. Sì, ma tua moglie lo sa o no? Lo immagina perché è normale. Io sono 17 anni che sono sposato con mia moglie, 17 anni, e l'ho sempre tradita da quando ci siamo messi assieme. Con le puttane? Con le puttane, quindi non può definire le corna, perché le corna sono quando uno ha un rapporto, come ti posso dire, un rapporto continuativo con un'altra donna, allora quelle possono essere corna, al tradimento. Cioè una relazione, dici tu, una relazione. Esatto, una relazione, ma se uno va a puttane e ci sta 10 minuti, un quarto d'ora, mezz'ora, sì, un'ora, non sono corna, questa però è una teoria. Questo lo sappiamo, così quando andremo a trovare sua moglie sappiamo che quindi se per 10 minuti Cruciani ci fa un giro non è un problema, questo abbiamo capito, no? Così è, vabbè. No, ascolta, allora, mettiamo lì su lei, perché mia moglie non è puttana. Ma non ho capito, per carità, nessuno potrebbe sostenere una cosa simile, ho detto semplicemente che stando... l'hai appena detto te, che no, poi andate a no, ho detto stando al suo autorevole ragionamento, caro professore, ho detto che se allora Cruciani sta per un quarto d'ora con sua moglie facendola anche divertire, io dico più di quanto non faccia lei, su questo non ho dubbio, lei dice non è un problema, quindi sappiamo che se sua moglie va con Cruciani per un quarto d'ora divertendosi, chiusa parentesi, per lei non è un problema, giusto? Sì, la differenza è che con mia moglie almeno ci devi dare 100 euro. Perché? Perché bisogna dare 100 euro su moglie? Perché 100 euro? Beh, perché non è una che va con tutti, quindi va pagata. Però scusami Manuel, sarà felice quando ascolta la telefonata sua moglie. Io non ho capito, tua moglie va pagata tanto, cioè se tua moglie si vendesse a 200 euro tu diresti di sì? Ma se lei è d'accordo è mica mia proprietà. Ho capito, cioè che ne sai che non ti ha tradito in questi 17 anni? Ma ben venga per lei, vuol dire che si è divertita, non è che devi aspettare per forza me. L'importante è che quando poi arrivo a casa, insomma, fai il dovere di moglie. Ma perché tu riesci ancora riesci ad andare con tua moglie? Io, certo, io tutte le volte che la vedo, come la tocco, a me mi viene il cazzo duro. Adesso, però, signor Manuel Danovara, perché parli in questi termini di sua moglie alla radio? Posso chiedere perché? È una cosa vergognosa, eh. Il signor Manuel, è una cosa vergognosa, schifosa. Ma sta dicendo una cosa normale. È bello che un uomo, è bello che un uomo, ma non è bello dopo 17 così anni torna a casa, ma e certo, basta, ma sfiorare la moglie per arraparsi. Questo vuole dire a suo modo Manuel, giusto Manuel? Io dopo 17 anni con, sì, mia moglie appena mi sfiora, appena io ho sempre il cazzo duro, ecco, benissimo. E li voglio bene e la amo, non dico di no, però ovviamente sono un uomo. Se sto fuori, se sto senza mia moglie, ma secondo te tutti i camionisti sono così, cioè sono dei grandi traditori alla fine sì, traditori nel senso ma classico, no, del ma termine. Questo non te lo posso dire, io posso parlare per me. Per quei 4, 5, 10 colleghi che conosco, tutti fanno che così. Tutti così. Va bene, no, amico mio. Tutti quelli che conosco io, poi sì, ciao. Chi c'è? Francesco? Chi c'è? Francesco? Francesco? Sì, eccolo qua. Francesco, da dove chiami? Padova, sì. Padova, vai, da Padova, Francesco. Sì. Dimmi. Eccolo qua. Voglio intervenire su quel che riguarda i vitalizi, se ne parlava ieri. Sì. Praticamente sono un abuso che andrebbe perseguito per vie giudiziarie, altro che... No, per vie giudiziarie questo mi sembra complicato. Un abuso per vie giudiziarie, che vuol dire? No, è complicato, però costoro, scusi, hanno la facoltà di legiferare e lo fanno sempre a favore di se stessi. Ma infatti è questa la cosa, cioè la cosa incredibile è questa, che alla fine se lo sono dato da soli il vitalizio e pretendono anche che sia una cosa intoccabile perché c'è la retroattività, la Corte Costituzionale... Non è un vitalizio. Ma non c'entra niente. Non è un vitalizio! Il signor Parenzo, che interviene sempre pur non essendo stato interpellato da nessuno, ma che c'entra? Interpellato da chiunque, certo, tutti possiamo parlare, allora lasci parlare. No, un momento, qui uno non vale uno, cioè non è che la sua opinione vale come quella del professor Settis. Però posso esprimere un giudizio, per favore? Si può fare il suo giudizio, ma la sua opinione non vale quanto quella di Settis. Qual è il tuo giudizio? La sua opinione vale molto di più delle altre. No, ma la sua non vale come quella di Zagrebelsky, ad esempio. Qual è il tuo giudizio? Dimmi qual è il tuo giudizio, dimmi. Il mio giudizio è questo, che è un abuso perpetrato in danno dei cittadini. Non c'è dubbio. Sì, però la legge non è che può essere perseguito. Che vuol dire perseguito? No, ma certo, è un privilegio, utilizzato per 40 anni, 50 anni dai politici che si sono fottuti dei soldi. Molto semplice, ma non è strano. Certo, ma infatti io in quello che lei diceva ieri sono d'accordissimo. Candidato, non si può pensare che in Italia, come siamo messi anche a causa di questi vitalizi, esperperi vari, eccetera, non si debba intervenire su un argomento che è semplicissimo. Costoro sono presi in maniera indebita dei soldi nostri e ce li danno indietro, semplice. No, non è indietro, non è complicato, però hai ragione, è stato un furto ai danni dei cittadini, su questo non c'è dubbio. Ma certo, e questo è il punto, noi siamo qua a dover subire, perché non possiamo fare nulla. E che faresti tu, che faresti? Io farei, se ci vorrebbe una rivoluzione, che non è neanche pensabile, d'accordo? È rivoluzione, però io farei semplicemente... Farei due con una rivoluzione, una cosa armata violenta, non ha senso, no, non si può, io non credo che sia opportuno. Però te l'auguri. No, neanche quello. Io dico che questa gente qua che ha finora rubato, perché è così il termine, andrebbe processata, restituiti i soldi che hanno preso al popolo oppure al governo, il quale distribuisce in maniera equa e opportuna a coloro che hanno pagato le tasse, come il qui presente. Io ho fatto 43 anni di contributi. Ho fatto 43 anni di contributi e prendo 1.100 euro al mese. Vergogna a quelli che protestano oggi per piccoli tagli oppure perché c'è una piccola riduzione. Vergogna. Fermi. La Zanzara. Cruciani, sono qua in ufficio, sono arrivato prima, sto scaricando giù tutti i podcast ad ascoltarmi sotto l'ombrellone. Oggi spenderò tutto il tempo del lavoro così, è dura senza di voi, io veramente non so più cosa dire, non so più cosa fare, non mi basta più niente, mia moglie, zero. Ma perché chiudete in agosto? Dai, madonna mia, ma perché? Che siete anche pieni di soldi. Sono un puttaniere e me ne vanto. Ciao amico mio, ti amo, ciao. La Zanzara. Every time I think that I'm the only one who's lonely. suddenly someone calls on me. Allora ragazzi, eccoci qui. Io voglio farvi ascoltare a grandissima richiesta, a grandissima richiesta, prima di tornare con voi che siete caldissimi sui vitalizi, sull'abolizione temporanea dei vitalizi. Sono stati ridotti i vitalizi, le pensioni ai politici, 2200 euro vari D'Alema, fini, riduzione, io godo, Parenzo no. A grande richiesta però per Tipi da Zanzara, Roberto da Modena. Tipi da Zanzara. Roberto dalla provincia di Modena, vai Roberto. Ciao Giuseppe, dimmi. Ti volevo dire una cosa, se ho scoperto qual è il problema dell'Italia. Cioè qual è? Sono i vecchi. In che senso? Sì, ma togli la radio, abbassa. Sono i vecchi. Allora, noi abbiamo una spesa pensionistica di 235 miliardi l'anno. Ma non li possiamo eliminare i vecchi, no? Mi sembra. Sì. Come? Non eliminarli. La sanità pubblica, chi la usa? I vecchi. E allora? E che facciamo? Cavolo, qui da cent'anni non si eredita più niente, non si fa più niente. Napolitano. Accetta Napolitano adesso. È andato ai Dolomiti e c'ha sette uomini di scorta. Sì, sette uomini di scorta. E cos'è? Bisogna cominciare a eliminare pian pianino i vecchi. Ma bisogna iniziare a eliminare volta, la stupidità, no, i vecchi. Adesso non muoiono più, comandano più loro di noi giovani. Ogni anno che vivono il 10% di quello della pensione che prendono, perché non se la meritano. Non se la meritano sti vecchi, rompono i coglioni. Io vado alla posta la mattina, vedo tre vecchi, non devo pagare una bolletta della luce per la strada, vedo tre vecchi che ci mettono tre ore per dire devo disdire un bancomat. Non le capivo io. Ma quanto ti sta? Sono andato via dal nervoso. I vecchi dovrebbero a un certo punto non guidare più le macchine, sì, perché pure. Io con i furgoni devo andare un po' più veloce di loro, loro vanno ai 50 all'ora, ai 40 all'ora. E poi, cioè, non guidare più le macchine, crepare il prima possibile per pesare di meno sullo Stato, giusto? Tutto cercare di morire il prima possibile. E poi? E imparare a ereditare i figli, cioè, non muoiono più sti vecchi. Gente come noi di 40 anni, 42 anni, un giorno. Li andiamo a prendere tutti sti vecchi e tornano nel loro posto, nelle tombe, devono morire, i vecchi devono morire, ma si muore. Ma anche tu devi, ma anche gente ma come te, muore, però non ha senso muore, che viva a lungo. E i figli ereditano e stanno bene come mangia come ossigeno. Una volta. Adesso mangia non muore ossigeno. Più nessuno, non muore più nessuno, i vecchi non muoiono più, comandano fino a 90 anni e noi di 40 anni non comandiamo niente, non comandiamo perché questi gli hanno dato delle medicine, secondo me. Stranissime, arriveranno anche a te anni. Purtroppo. Questa è il numero uno. Tipi da Zanzara. Allora ragazzi, David, però una dei protagonisti della giornata è certamente una professoressa, si chiama Alessandro Pettorusso, una maestra di scuola elementare nel Canavese, stiamo parlando del Piemonte. Ripeto, Alessandra Pettorusso, pure da quello che sembra qui dalle foto, una bella signora. Le hanno oscurato il sito perché ha postato uno scritto che recita così: grazie a Dio sono fascista. In realtà poi lei dice, da alcune cose che ho letto, che ha semplicemente postato un altro scritto, un altro post per un'indagine sociologica. Ripeto, ringrazio ogni giorno Dio per avermi fatto fascista. E poi ancora, non capisco cosa ci sia tanto da scandalizzarsi, è solo la mia idea, dico sempre quello che penso e difenderò fino in fondo il mio pensiero. Questo avrebbe detto in un'altra occasione. Lei si chiama, ripeto, Alessandra, caro David, proviamo, direi di provare. Sì, Alessandra Pettorusso. Pronto? Sì, professoressa? Sì. Sì, lei è la professoressa Pettorusso? Sì, con chi parlo? Salve, buonasera, qui Radio 24, salve. Sì, salve. Senta, è lei che ha scritto su Facebook, grazie a Dio sono fascista? Scritto, signora? No, non l'ho scritto io. Beh, come non l'ha scritto lei, sì? No, non l'ho scritto io, non sono parole mie quelle. Lei non è maestra alle elementari? Sì, ma quelle non sono parole mie. E di chi sono, scusi? Non sono parole mie, perché non l'ho detto io. Le hanno rubato il profilo Facebook, allora. Che è successo? Qualcuno? No, mi spieghi, cioè, perché mi sta facendo queste domande? Perché no, sono Parenzo, buonasera intanto. Ringrazio ogni giorno Dio per avermi fatto fascista. Non sono parole mie. Ma come c'è una spiegazione? Bene. No, c'è una spia, ma io sento due persone che parlano. Sì, io sono Parenzo, buonasera. Io sono Cruciani, buonasera, buonasera. Buonasera. Comunque ripeto, non sono mie, ci sono le smentite, c'è tutta la spiegazione. Ma le smentite? No, ma ce lo spiega a noi, perché non ho capito. Siccome è scoppiato questo caso, e leggo qui, grazie a Dio sono fascista, il post shock su Facebook... La logica è una ricerca storica, una ricerca sociologica, quelli sono post, non sono parole mie. Io ho già rilasciato le interviste, le smentite, ed è tutto cioè, spiegato. Cioè lei non ha fatto, non ha mai detto una frase del genere? No, assolutamente no. Non è manco di destra. E non sono fascista, non sono di destra, non sono di sinistra. È una ricerca storica e una ricerca sociologica su quello che può succedere sul web. Siccome pare che si sia messa in modo appunto un'indagine da parte della... No, sì, ma l'indagine, ma non sono parole mie, ripeto, io non sono fascista, non sono di nessun partito politico, semplicemente ho fatto una ricerca storica, ho parlato di un periodo storico che... Sì, un periodo storico, d'accordo. Però la parola, la frase ringrazio ogni giorno Dio per avermi fatto fascista. Ma di chi è questa frase? Io, è un post. Ma chi l'ha scritto? È un post che è stato condiviso con la finalità di provocare delle reazioni, dei dibattiti. Mi sembra chiaro, mi sembra che tutto questo è avvenuto. Beh, insomma, infatti. Dire, ho capito, ma lei sta dicendo che l'ha scritto lei o comunque l'ha condiviso? No, l'ha condiviso, no, giusto? No, l'ha condiviso. Non sono parole mie, io l'ho condiviso perché c'è una ricerca storica e una ricerca sociologica. Cioè, uno per fare una ricerca condivide un post dove c'è scritto ringrazio ogni giorno. Perché comunque innescare un dibattito, capisce le cose del dibattito. Ma scusi, c'è anche un'altra frase, non capisco cosa ci sia tanto da scandalizzarsi, è solo la mia idea, dico sempre quello che penso e difenderò fino in fondo il mio pensiero. Sì, ma l'idea rispetto a cosa? Non a quella frase, chiediamo a lei rispetto a cosa. Ma allora io penso di essere in onda, non penso che voi mi state facendo queste domande, a che scopo? Cioè io non so neanche cosa. Noi siamo parlo. Una radio, Radio 24, io mi chiamo Cruciani. Sì, ma sono in onda, perché mi state, per quale motivo mi state? Siamo dei giornalisti radiofonici, la stiamo chiamando per capire che cosa è successo. Scusi cara. Quando uno dice io difenderò fino in fondo cara, il mio pensiero. Cara, madame. Scusi, Fräulein. Il pensiero a cosa si riferisce? Scusi. Fräulein, il pensiero, se si vuole capire, bene, se no. Fräulein. Se vogliamo giocare, giochiamo. Ma non c'è da giocare, Fräulein, c'è solo da capire. C'è ma solo da capire se voi mi accusate di cose che io continuo a dire che non ho detto. Ma lei non sono detto. Parole ma mie. Condividere quelle. Vuol dire che io non condividerei condividere mai. Condividere c'è un motivo. Ah, c'è la provocazione sociologica. Esatto. La provocazione. Ah, esatto. Bene. Uno condivide, se grazie a Dio. Volete prendere. Sì? No, sì, per carità, sì. Ma uno va bene. Comunque va benissimo. È stato già spiegato, è inutile andare avanti. Che cazzo abbassa il telefono questa qua? Che cazzo chiude il telefono? Anche perché non ho fatto il tempo a chiederle una cosa. Sul suo sito ci sono una serie di mi piace alle seguenti pagine: Alessandra Mussolini, un'Italia senza comunisti, Benito Mussolini, aforismi e opere. Ma per me va benissimo, però basta ammetterlo. Repubblica Sociale Italiana, i giovani fascisti italiani, essere fascista non è reato, veri fascisti, fascisti italiani, Benito Mussolini, duce d'Italia, eccetera, eccetera. David! Dottore, ho l'altro impegno contrattuale con il signore La Sette. Cailo. Vabbè, non ciao. Può parlare più ora con miserabili sole 24 ore. Partito. Ciao. Ciao Giuseppe, io ti voglio bene. Io ti voglio bene. Quel bastardo, questo bastardo che hai accanto, questo schifoso. Sei un gabinetto schifoso. Mentre lei sta chiamando qua, a casa sua, sua moglie si sta divertendo. Mia moglie è qua accanto a me, bastardo. Guarda della puttana di tua moglie, perché tu sei riccione, tu sei. Guerrerami, merda, guerrerami. Tu sei riccione come Macron. Tu sei riccione come Macron. Tu sei una pezza di merda, sei. Mi piace un mondo così? A me fa cagare un mondo così. Un mondo così fa cagare. Allora, io sono vegetariano. Evito di mettere vestiti di pelle, robe del genere. Sono contro ad alcune manifestazioni in cui si abusa un po' degli animali e quant'altro. A riguardo dell'orso, l'orso sicuramente se aveva i cuccioli eccetera ha attaccato, perché è nella natura dell'orso, perché è normale che sia così, perché se si vive a contatto con l'uomo possono esserci queste situazioni. Detto questo, ragazzi, noi siamo esseri umani. Se l'orso ammazza qualcuno, ragazzi miei, ammazziamo l'orso. Se dite il contrario, avete le rotelle fuori posto. Renzi che fa il dipartimento mamme. Beh, Berlusconi la deve copiare, assolutamente. Voglio il dipartimento MILF di Forza Italia. Per forza, siamo al top. Siete proprio stronzi, guarda, proprio ve lo devo dire in faccia. Allora, vedo qui dallo schermo, cari amici, che ci sono molti, moltissimi camionisti incazzati come delle belve ancora una volta per l'intervento di Alessio da Pescara di ieri. Un intervento molto duro nei confronti della categoria dei camionisti che ci segue affezionata, ha detto praticamente che i camionisti sono sporchi e fanno vergognare la categoria quando vanno in giro con gli zoccoli, con le ciabatte, puzzolenti, schifosi, eccetera, eccetera. Parole a mio avviso vergognose. Ieri c'è stato un durissimo confronto tra il signor Alessio e un autotrasportatore di Roma incazzato come una biscia per quello che ha detto Alessio. Prima però uno dei grandi protagonisti di questa stagione della Zanzara, il signor Polegato, ristoratore fascista di estrema attualità, perché c'è una caccia in tutta Italia ai fascisti o coloro che si proclamano tali. Io da liberale, persona aperta, persona che vuole assolutamente la libertà di pensiero per chiunque, seguendo il famoso detto di Voltaire, il problema fondamentale qui non è dare la caccia ai fascisti, è abolire le leggi che limitano la libertà di pensiero, che limitano la libertà di espressione anche per i fascisti. Ma non è una battaglia che noi facciamo per i fascisti, è una battaglia che dobbiamo fare per noi stessi, per i nostri figli, perché altrimenti se passano leggi liberticide sulla libertà di espressione anche delle cose più estreme è la fine di tutto. Beh, amici miei, mi è giunta la notizia, purtroppo Parenzo non c'è, non può commentarla, ma lo faremo magari domani, che il famoso partito, sono sotto indagine, il partito che si sono svegliati improvvisamente, ricordate il partito dei fasci del lavoro con quel simbolo fascista eccetera? Beh, 7-8 persone che appartengono a quel partito, che esiste da 20 anni, un piccolissimo partito, schegge impazzite della follia italiana, schegge impazzite della democrazia italiana, sono sotto indagine e quando se ne sono accorti 20 anni dopo. Per cui uno dei grandi protagonisti di questa stagione della Zanzara, un ristoratore friulano, il signor Polegato, fascista vero. Io non sono d'accordo nemmeno con una parola di quello che dice, ma vorrei che continuasse a parlare e a dire la sua. Pronto? Sì, buonasera, mi chiamo De Canuttis, sto cercando il signor Ferdinando Polegato. Sono io. Signor Polegato, io sono onoratissimo di conoscerla. Sono onorato che lei è onoratissimo. Sono onoratissimo, io per caso, della verità, ho letto il suo appello, ho visto un video su Facebook. Sì. E questo numero, io sono profondamente di destra. Ho trovato. Abbiamo bisogno di quella gente là. Sì. Ho trovato finalmente uno come me. Di dove sei? Io sono sono nato ad Amaro, a dire la verità. Sì, no, era per dirti che quando vieni da queste parti vieni a trovare, che mangiamo una pasta assieme. No, assolutamente, poi no? Maniago, insomma. E, no, ho sentito in questa lista è Ribaltone, sì. È fantastico. Beh, hai detto di stare un po' nella situazione, sarà difficile, ma sai, siccome che non siamo violenti, non usiamo nessuna violenza, sarebbe da usarla comunque, Sì che sarebbe, bisogna dare delle randellate a sta gente. Tu, io ho sentito, hai detto di Alfano e Napoletano, bisogna darci giù duro. Sì, io non ho problemi, vado avanti. Ti ringrazio di questa telefonata, mi rincuora un attimo perché sei... No, ma stiamo scherzando, ma scherzi, viva il Duce tutta la vita. Viva il Duce fino alla morte. E l'altro fenomeno, l'altro genio, Gentiloni? Mamma santa, ma nemmeno dici, non mi vuoi fare, mi fai incazzare, stavo tranquillo un attimo, guarda. Gentiloni, caro mio, io penso che non esistano più pezzi di merda di quella gente lì, sei. Siamo veramente arrivati alla fine, adesso c'è solamente... Guarda che fra un attimo, noi stiamo scomparendo, lo sai. Noi dobbiamo resistere. Noi saremo 15 milioni di italiani in meno. Sì, basta con sti migranti, questi ciabattanti. Sì, sì. Però mi devi fare una cortesia. Dobbiamo dire insieme, perché io purtroppo ho dimenticato questa grande soddisfazione di dire insieme viva l'Italia e viva il Duce. Viva il Duce e viva l'Italia. Viva il Duce e viva l'Italia. Grande Ferdinando. Ciao, ciao, ciao. Per Tipi da Zanzara, Fiorella. Tipi da Zanzara. Vai, Fiorella, da dove chiami, Fiorella? Buonasera, chiamo da Udine. Io volevo dire una cosa fondamentale a Parenzo. Sì, io non sono una persona tendente all'ira, però lui è capace di tirare fuori il peggio di me. Meno male. E il desiderio più recondito è quello di dargli gli schiaffi a due fino a quando diventano dispari. Però scusami, quindi, io pensavo che il desiderio recondito fosse quello di sottomissione, sarebbe stato molto più sarebbe stato molto più sexy. Con gli uomini di sinistra non avrei nessun tipo di piacere, tra l'altro. Perché scusa, non ho capito. Non sei mai stata con uno di sinistra? Non sono bravi a letto, non sono bravi a letto. Adesso questo francamente è proprio questo è stato. Fuori se vince da un sondaggio fatto fra colleghe. Colleghe di che? Allora, guardi, se lei sta facendo delle insinuazioni, io le rispondo pertinentemente. No, ma colleghe di che? Pertinentemente di che cosa? Mestiere, per fare quell'antico mestiere bisogna essere belle, quindi persone che la circondano non sicuramente non lo possono fare. Ma io non ho parlato di nessun mestiere, scusa, no, Fiorella, non ho capito. Tu che mestiere fai tu, scusami? Io sono un insegnante. Capisci che ormai qui passa tutto delle cose che sono delle cose folli. Guardi, allora io con questo individuo che sta parlando, quale individuo questo energumeno che sta parlando, energumeno no, però. Mi sembra che si chiami Parenzio, mi sembri. Ma non importa. Sì, cara. Lei è la negazione di qualsiasi sessualità. Ciò che lei mi dice non mi tange, anzi no, no, ma è la negazione assoluta della mia più profonda indifferenza. E la fortuna si rifaccia soprattutto i il cervello. No, ma scusami, Fiorella, io voglio capire. Insegna a scuola? Lei ha un solo neurone che va lei da giù. Lei insegna a scuola? Fortunato quando va giù per le donne di sinistra, fino a quando ma non perché? Vanno con quelli di destra. Quelli di sinistra, ma insegna? Lei insegna? Ecco, mi dica dove, perché certificati non... di lodevole servizio. Da dove viene la tua convinzione che quelli di destra sono più bravi a letto rispetto a quelli di sinistra? Allora, io personalmente ho sempre trombato con quelli di destra, ma le mie colleghe che hanno avuto scusi, ma cosa vogliamo dire? Vogliamo buttare un linguaggio comune che lei usa? Al limite io lo uso. Quando trombano quelli di destra, cosa hanno di più secondo lei? Sicuramente conoscono meglio la morfologia di una donna, perché quelli di sinistra, quelli di essendo destra, di trocloditi, sono sempre lì. Insegna la signora, vero? Interessante. Insegno, questo, certo, insegno. Ciao Fiorella. Ma chi è quel pazzo che affida i bambini a questa qua? Tutti quelli di destra soprattutto. Ma perché questa qui lo dice a tua storia? Sorella? Questo qui lo dice a tua sorella. Ciao. Ma chi è questa qua? Tipi da Zanzara. Allora ragazzi, eccoci qui, dove andiamo? Andiamo dopo Fiorella? Roberto da Milano, vai Roberto. Ciao amico mio. Dimmi Roberto, dimmi. Ma io volevo spezzare una lancia fuori di Alessio. Insomma, non ha detto Alessio il camionista di Pescara, Alessio, no? Esattamente, cioè insomma. Poi parliamo di persone, dovevate fare che ho ascoltato prima di quel tipo lì, non so dove chiamarsi, insomma la puttana, insomma. Io faccio l'autista da 30 anni, non mi riconosco assolutamente. Ma autista o autotrasportatore? Che cosa? Guarda, autista o autotrasportatore, cioè io trasporto un bilico, insomma, un autotreno. Roba grossa, insomma, roba grossa. Sì, ma insomma, sono capace di fare dei ragionamenti, voglio dire. Ma chi ha mai una situazione di quel tipo là, cioè fa rappresentare una categoria come dei puttanieri. Voglio dire, io non lo so. una donna la conquisto e poi. Vabbè, però anche chi va a puttane, chi va a puttane non è che sia da, così da criminalizzare, cioè. Ma no, guarda, non, guarda, secondo me i vecchi autisti di una volta, i vecchi autisti, quelli che hanno insegnato, probabilmente lo facevano nella riservatezza e nel silenzio. Adesso tutti quanti si riempiono la bocca, che dopo a volte li vedi sui piazzali così, sono razzisti, fascisti, sono di tutto, poi vanno nei piazzali e nelle logistiche trovi senegalesi, albanesi, rumeni che lavorano e buttano veramente l'anima a fare mestieracci che nessuno vuole fare. Li vedi parlare in giro nelle trattorie, sono veramente il peggio. No, scusa, che c'entra tra questi che tu chiami fascisti, razzisti con i senegalesi e i rumeni, scusami? Ma nel senso che sono, parlo delle logistiche, no? Sono lavoratori che lavorano, fanno tipi di lavori che noi non facciamo. Che probabilmente a mio figlio non fa. Cioè, fare. Che tu parli di. Spiegaci bene, non usare terminologia. Gente che carica, scarica, lavora in celle a meno 30 gradi con i surgelati, cioè questi lavoracci che probabilmente a mio figlio. E invece, gli autotrasportatori sono fascisti e razzisti? Ma non tutti, perché io non lo dico, quelli più rumorosi, sì, quelli la maggioranza, poi sono quelli che non sanno leggere i quattro punti cardinali, vanno in giro con navigatori a infognarsi in stradine senza poi manco riuscire a tornare a casa. Insomma, dico che la categoria non può essere rappresentata da uno che chiama e fa quel tipo di ragionamento. Penso che ci sono dei buoni lavoratori. Aspetta, Corrado, aspetta, sentiamo Corrado da Treviso. Corrado? Buonasera. Dimmi, Corrado, dimmi. Allora, innanzitutto saluto Parento, anche se mi sta sui coglioni, sì, perché è vicino di casa. Vabbè, allora? Ma che vuoi dire? Niente, allora, io ho 35 anni di esperienza e porto il bilico. Ho tutte allora? Le patenti, sì, come Roberto, allora? Allora, ce n'è di tutti i colori. Allora, veniamo come l'ultima ruota del carro, dai clienti ti trattano male, devi fare il facchino, non rispettano i contratti di lavoro. Vabbè, ma lasciamo perdere adesso le problematiche, no, c'è. Sentirmi dire che questo qua, io vorrei chiamare quel coglione da Pescara, da dov'è, e fargli delle domande se veramente fa l'autista. Sì, sì, lo fa, guarda, lo fa, mi ha mandato anche un messaggio oggi, lo fa, dice che la maggior parte... La multa paga e parlare di questa cosa, è troppo facile, è come che io dicessi, tutti i giornalisti sono omosessuali... Tutti sì, ho capito, ha detto che la maggior parte degli autotrasportatori sono... Puzzano. Qua, guardano anche la qualità delle persone, come ti vesti, come ti vai, come ti tratti, perché al giorno d'oggi alzano dall'ufficio, non voglio più... Hai sentito Roberto prima? Hai sentito Roberto che diceva? Cioè, fascisti, cosa vuol dire fascisti? Razzisti, fascisti. Nasce dalla gente come Parenzo che con i suoi discorsi estremizza. Io ho 54 anni, ne ho i coglioni pieni di sto mestiere qua, vado in pensione a 64 anni e come posso portare il bilico 300 quintali su e giù per le scale? E poi che c'entra questo pensione, però? Vai in pensione, questi maledetti a Roma che starebbero veri impiccati all'albero, non si vogliono abbassare le pensioni, va con la Fornero, non vai più in pensione, vedi le cose che non vanno bene. Ma impiccare all'albero che significa impiccare? Per me io farei una Norimberga qua in Italia. Norimberga proprio? 30 anni. Sì, sì, un processo, non con la morte. Norimberga, hai detto impiccare all'albero, hai detto? No, per me, ecco, crimini contro lo Stato, c'è gente che ha ucciso, c'è gente che ha distrutto l'Italia, siamo diventati quello che siamo diventati, è un crimine contro tutti l'Italia. Beh, dunque, mettere in galera e buttare la chiave, impiccare. Buttare la chiave, ad esempio, io sono contro, cioè, io ti do 10.000 euro al mese. Sì. Però se rubi come senatore, via anche l'oro che hai sui denti, a me non me ne frega niente del vitalizio, però se rubi vai a casa. Roberto, e paghi sono doppio. Questi fascisti, Roberto, i razzisti, i fascisti, sono questi qua che hai appena sentito? Ma no, guarda, secondo me il collega lì, chiamiamo collega perché poi noi amiamo chiamarci colleghi. Ma lascia perdere i colleghi, eccetera, tu lo disprezzi, allora, tu disprezzi. Confuso, no, allora io penso che ci sia una sorta di disprezzo nel linguaggio che noi utilizziamo. Perché siamo un po' bombardati da notizie che non sappiamo poi decifrare. Ti faccio un esempio. Io, per esempio, anche sta Boldrini che viene massacrata. Sì, metti meglio il telefono, però, sennò capiamo. Scusami, anche sta Boldrini che, per esempio, viene, che è un'istituzione comunque, viene massacrata un po' da tutti, no? Sì. E io ti dico, ma scusate un attimo, la Boldrini, il presidente della. terza carica dello Stato. Beh, ma che c'entra questo? Uno, io non sono d'accordo. Il che ha fatto prima il collega lì dice: li dobbiamo impiccare tutti, d'accordo. Viviamo in uno stato di anarchia, non ci governa più nessuno. Allora io dico: Corrado, che dice Roberto? Corrado, no, in Italia negli ultimi 40 anni abbiamo avuto politici di destra e sinistra, hanno rubato, ci hanno svenduto, hanno fatto ammazzare. Cioè, Roberto è troppo moderato, dici. Ma noi cosa abbiamo fatto nel frattempo? Scusami, noi categoria nel frattempo. Ma lascia perdere la categoria. Abbiamo fatto sciopero, ci veniva la polizia e ci diceva: dopo domani ti ritiro la patente. Hanno creato le cooperative per non pagare le tasse. Ciao ragazzi, ciao Roberto, ciao Corrado, ciao. Allora ragazzi, andiamo a Milano. Andrea, vai. Buongiorno, buonasera Cruciani. Volevo fare dei vitalizi. Dimmi. Intervengo ad hoc per l'intervento di prima. Sì. Io volevo semplicemente dire, io ho fatto e faccio ancora oggi l'assistente parlamentare. Sì, sì. Quindi è un discorso che conosco molto bene. Sì. Il mio discorso è questo: la più grande beffa di questo paese non sono i vitalizi, è stato l'abolimento del contributo pubblico ai partiti. L'abolizione, sì. L'abolizione del contributo pubblico ai partiti. Sì, perché te dai i soldi pure a te. No, non è vero. Come no? Assistente parlamentare, meno soldi ci sono per i gruppi parlamentari, meno soldi ci sono per gli assistenti. Giuseppe, è normale. La politica costa. Lasciamo stare quelli che rubano. Ragazzi, ma non è questo il punto. Ma nessuno. Ma ho capito, ma non mi interessa. Devi bussare. Siccome c'è anche un pregresso, c'è anche un passato fatto di sprechi, ruberie, gruppi parlamentari inventati per guadagnare dei quattrini, eccetera eccetera, bisogna dare un taglio netto. Il taglio netto è non solo con i vitalizi, è stato fatto un piccolissimo passo, oggi ancora c'è il Senato. L'altro taglio netto che è stato fatto è sui contributi, i contributi ai partiti, ancora troppo poco, perché continuano a prendere soldi fino al 2017, prenderanno dei soldi da adesso in poi. Tra qualche anno i partiti saranno costretti a bussare agli italiani: mi date dei soldi per portare avanti un'attività politica? E per fare questo devono essere credibili. Se non sono credibili, gli italiani continueranno a mandare a fare in culo e dare una piccolissima parte, lo 0,00001 del loro reddito, chiaro? Cioè, questo hai è il ragione, punto fondamentale. Allora, no, ho ragione, è così. Legalizziamo il lobbismo palese come ma lascia perdere, quello è un altro questo, discorso. Il Parlamento deve fare gli interessi di chi lo vota. Mi vota il comparto. Ma io sono anche d'accordo, perfetto. Ma sono anche allora, d'accordo con te. Riso ma come fai a essere a favore dei vitalizi, che è una roba di una stortura pazzesca, i vitalizi? I vitalizi sono una vergogna. C'è gente, come hai sentito prima, come Taormina, che con una legislatura portano a casa 2.100 euro e nemmeno sanno l'importo del loro vitalizio. I vitalizi sono una vergogna e oggi hanno fatto un piccolo passo diminuendo il vitalizio per quei parlamentari che sono già usciti, diminuendo questo vitalizio qua, diminuendolo. Non lo hanno abolito, hanno abolito il nome vitalizio, ma non lo hanno abolito, hanno tagliato una parte mettendolo sullo stesso livello degli altri italiani, più o meno. Qua non capisco che cosa ci sia di strano, mi spieghi? Perché la politica va distribuita. Va bene, d'accordo, dopo, ma chi ha detto? Ma chi ha detto? Facciamo un piano, ha ragione, facciamo come si dice, un piano contributivo. Io do 100 al mio piano di pensionistico. Vabbè. Quando finisco la mia legislatura, riprendo, come fanno tutti, una parte di quello che ho versato. Vabbè. Ciao amico mio, ciao. Voglio far ascoltare però, prima del rush finale con gli ascoltatori, un tizio che si chiama Falomi, che abbiamo intervistato anche noi nel passato, che è rappresentante degli ex deputati, cioè gli ex deputati e senatori hanno anche i loro rappresentanti, una specie di associazione, una specie di sindacato. Falomi, il quale ha detto: mi hanno eletto i cittadini, è un mestiere diverso dagli altri cittadini. Perché non dovrebbe essere equiparato al trattamento di un lavoratore, secondo perché lei? Perché io non ho fatto, almeno io, il parlamentare, perché ho vinto un concorso. Mi hanno eletto i cittadini quando esistevano anche leggi elettorali che consentivano ai cittadini di decidere chi andava in Parlamento e non era nominato. Quindi il mio mestiere è più importante di quello di un lavoratore normale, è cioè perché è deve diverso. Avere riconoscimenti diversi. Non è, aspetta, ma io non voglio nemmeno stabilire che è più importante, dico che è diverso. È una funzione di rappresentanza dei cittadini, quindi io non ho fatto il concorso. prendo più di 4.000 euro e non è un privilegio, lui dice è una garanzia. Lei non si sente protagonista di un privilegio, lei non sente di avere un privilegio, lei adesso ha un vitalizio di 4.852 euro. 4.333 euro. 4.333. Posso chiedere quanti anni ha? Io ho 74 anni. E lo prende da quanti anni questo privilegio? Lo prendo dal 2008. Luciano da Foggia, vai Luciano. Luciano, innanzitutto i complimenti. Vai, dimmi Luciano. Stavo per vomitare a sentire sto tizio, è una cosa veramente abominevole sentirli parlare. Perché è abominevole? Vorrei essere a favore dei vitalizi, guarda, bisogna essere un po' collusi con la politica, bisogna fare No, c'è qualcuno che è convinto che la politica va retribuita, che bisogna prendere i vitalizi. Retribuita in quella maniera. Ma infatti è quello il problema. Quanto? Quanto ho lavorato più che altro quanto, io mi alzo la mattina alle 5 e torno la sera adesso, sì. Ho una piccola impresa agricola, sì. E avrò guadagnato sì e no 40 euro. Figuriamoci la pensione, no? Figuriamoci la pensione. La pensione. Manco, ma che cazzo stai a dire? La pensione, quello è un privilegio da politici. No, ma questo tutto il resto va a lavorare, noi produciamo, io faccio la mattina? Pianto i broccoli e cerco di poterli fare mangiare alle persone in maniera sana. Cioè tu alla pensione non la piglierai mai, questo è il punto, cioè non, i contributi li paghi o no? Pago 4.000 euro di contributi agricoli da coltivatore diretto . E della pensione molto volente, sai che cosa vedrò? Niente, perché morirò a 50 anni, come morto mio padre. Speriamo di no. Per come viviamo, per lo stress che abbiamo addosso, per come viviamo, perché noi facciamo 40 gradi tutti i giorni qui in provincia di Foggia. Ma il problema è che questi qua si stanno battendo in Parlamento, tra l'altro con grande accanimento, mentre su altre leggi non vanno in Parlamento, se ne fottono, aule vuote, eccetera, eccetera. Aule piene, pienone alla Camera, vergogna! E non dovrei vomitare, Lucia? Ciao, Cruciani, Luciano sei tu, Luciano. Oh, scusami, ti chiami il nome a Giuseppe allora? Giuseppe. Ciao, amico mio, ciao. Un abbraccio. Ragazzi, domani, ciao. Ancora riesci ad andare con tua moglie? Io, certo, io tutte le volte che la vedo, come la tocco, a me mi viene il cazzo duro. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siete proprio stronzi, guarda, proprio ve lo devo dire in faccia.